Sonorità che provengono dalle terre gaeliche, dalle nebbie di Avalon, dalle terre misteriose dei druidi, da Stonehenge, da tutti quei luoghi che riguardano l'isola britannica, ma in particolare in questo caso il Galles, che sarà il nostro avversario questa sera. Il pallone rotondo, io corro dietro al pallone per quasi un milione o forse di più. Io sogno sempre il gol, sogno sempre il gol, però faccio il portiere. Benvenuti signori e signori a Eurocalcio 2021. Questa sera grande partita, grandi emozioni. L'Italia è qualificata, il Galles ancora no, se la litiga con la Svizzera, e quindi qualcuno già ha fatto polemiche, il biscotto nel latte, il biscotto quello, insomma, e Michele De Paola. Salve a tutti. Scusate, abbiamo qualche problema logistico dei ritardatari dell'ultima ora. Come al solito. Tra l'altro io tutto quello che abbiamo detto prima, che le bestemmie, le cose, l'imprecazione, eravamo già in diretta, pensate. Non... E tutti hanno sentito i fatti nostri. I fatti nostri, sì, cose, insomma, vabbè, succedono, sono cose belle, le stupide creature. Questa volta anche con una variante, con la variante Delta. I 4WD però, la Lancia noi abbiamo. Vabbè, Marco, presenta. Allora, a me l'ingrato compito di presentare me stesso e Mauro delle stupide creature. Bravi. Ma soprattutto oggi abbiamo un ospite importantissimo che ha collaborato nella storia delle stupide creature con noi, una cantante di primissimo ordine, signori e signori, Ilaria Soprano! Ciao! Quindi è un soprano? Sì, hai messo. Ah beh, qui comunque chiacchierano, i microfoni aperti, fanno tutti un po' quello. Il soprano, ma la sentiamo poco, Che cazzo gli pare? Io vorrei fare una provocazione a Michela. Faccio sentire una cosa a Michela, vediamo se Michela la riconosce al volo, A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Di che si tratta, Michela? Di che si tratta? È una canzone di un gruppo che non mi ricordo il nome. Te lo dico io il nome. L'hanno presa bene, perché comunque Bono gli ha clonato la canzone. Allora, questi sono i Pinguini Tattici Nucleari. E la canzone si chiama Ringo Starr ed è praticamente identica all'inno di Euro 2020, insomma fatto da Bono Vox e compagnia bella. Allora guardi, vedi un po' se va bene adesso. Ti va bene le cuffie? Perché è tutto in diretta. Devo abbassare ancora, si abbassa? Si è abbassato? No? Allora sto abbassando le cuffie di qualcun altro? No, la mia no. Mia, non sento più niente. Ok, è quella di Michela. Allora, forse è questa qua. Guardi, va bene questa così? Così è perfetto, perfetto. Allora, prendi il microfono in mano e parla col microfono. Ti ringrazio, insomma, che... Bene, vabbè, era questa cosa qui. Volevamo fare questa cosina simpatica per far vedere, insomma, che praticamente l'inno, diciamo, non è che è una clonatura esatta. Però, insomma, non soltanto alcuni elementi musicali, come ci possono spiegare anche le stupide creature, ma alla fine, insomma, anche le sonorità sono più o meno quelle, insomma, ragazzi. Gli hanno proprio copiato la musica, però... Mi hanno fatto zot. Che dici, Marco? Ma allora, sì, purtroppo questa cosa pare essere successa, ma volevo rendere noto che c'è stato nella storia dei mondiali un plagio ancora più grave. Durante l'Italia 90, vi ricordate la famosa canzone Noti Magiche? Vi ricordate? Sì, l'hanno copiata da Giorgio Moroder quella. Come? L'hanno copiata da Giorgio Moroder. No, in realtà è stata clonata la sigla da un gruppo di Vicenza che faceva musica bulgara. Faceva così. Beh, in effetti è assolutamente identica. Identica. Non poteva essere tanto diversamente, perché comunque diamo il benvenuto anche a Marco Gualdi. Grazie, grazie. Ma sono appena entrato, ho messo le cuffie, ho sentito la versione bulgara di Notti Magiche. Esatto. Ne state parlando? Sì, sì, ne stavamo parlando. Sì. Momenti bellissimi. Tra l'altro, è il momento, insomma, del prepartito e quindi degli nazionali. Partiamo subito, no? Bravissimi, batto le mani solo io, bravi. Bravi. Mai avuto una partecipazione così infausta. Mameli si rivolta nella tomba, ma perché vorrebbe uscire ad applaudirvi. Mameli. Pensate che questa volta abbiamo, credo, perché non ne sono assolutamente sicuro, anche l'inno del Galles. Guardi, qual è il testo originale? No, non devi cantarla, ci devi tradurre il testo. Aspetta, sto sentendo. Questo è in gaelico. Gaelico, sì. Praticamente, la nostra nazione è fondata sul sangue dei nostri nemici. Nemici che sono nemici poiché non appartengono alla nostra nazione. Mi sembra chiaro? Esatto, esatto. Giusto. Esatto. Quindi c'è questa sete di sangue, noi la riverseremo su tutti quanti i nostri avversari, qualsiasi essi siano, giustamente, che sono nostri avversari in quanto non fanno parte di noi, della nostra nazione. Mi sembra che sia un testo lineare. Bello. Perché bello. Non anche sono vario, ma come sì te. Sì, beh, cioè, ci tengo, sono molto nazionalisti, capito? Questa cosa qua sono quasi peggio dei scozzesi, tutto sommato. Esatto. E poi però c'è il pezzo in cui inneggiano al porro. No, il porro è il loro simbolo. E l'ana, no, il loro simbolo è il drago rosso. No, è il porro. È il porro, assolutamente. Poi dopo vi racconterò la storia del porro. Del porro, certo, no, è importante. Viva il porro, cosa? Senti, viva il porro. Prendine sempre due, così almeno uno lo mostri al nemico. Cos'è? Esatto, perché loro uccidevano il nemico. Aspetta, che è nemico perché non fa parte di questa nazione. Del porro, sì, ok, perfetto. Va bene, grazie Gualdi. Spero vi sia piaciuto, insomma, l'inno ufficiale del Galles, che è molto lungo anche. Cioè. Ci domandiamo a questo punto, ma il Galles è una nazione? Ma dobbiamo anche rispondercelo. Mi piacerebbe. Perché strilli? Perché strilli? E poi che vuol dire piacerebbe? Il Galles è una nazione o no? Mi piacerebbe. È una nazione, ma qui. Dentro, nei nostri cuori, esatto. Quindi, ma è un po' nei loro. Io ricordo che Stupide Creature nel 1994 scrissero una canzone su il Galles è una nazione, giusto? Sì, faceva così. Il Galles è una nazione più o meno come tutte le altre, o forse no, è un po' diversa. È abitata da tanti omini, chiamati gallesi, i quali hanno una forte simpatia per le galline. Amano le uova, ma soprattutto amano il porro! Porro! Porro! Cucinato in mille modi diversi, coltivato in mille modi diversi. Galles, galles, galles, galles, galles. mi ricordo il porro. Scalle. Cucinato in mille modi diversi. Scalle. E buttato dalle finestre. Scalle. Quando andava male. Bene, io devo dire che questo è il momento più alto in assoluto. Il porro, rigorosamente bio. No, un porro! Ringraziamo e salutiamo anche Francesco Lobby Frontali di Muro. Bravo! Che adesso ci dirà le formazioni del Galles, naturalmente. Niente. Sei pronto? Se vuole dico io, perché c'ho... Ah, vai, allora il vai. Il portiere cacchi... Poi c'è i due difensori che sono fratelli, Makaken e Lichagen. Poi spiegala perché questa cosa. No, no, perché è galeico. È galeico, sì. Poi ci sono i due terzini, quello sinistro e quello destro, che sono Mikallen e Nakhan. E poi anche il centrocampo. Il centrocampo è fantastico perché ci sono due cugini che sono Gian Giacomo Beckham, perché è italo gaelico. Okay. E poi c'è l'altro cugino che è Michael Nicker. Ma scusa, perché c'è l'apostrofo, quindi bisogna. Ah, scusa, sì. mi è sfuggito il primo terzino. No. Dopo. Se no qui. Scusate, anche sì. Due cugini siamesi. Esatto, che però sono una fascia e non l'altra. È quello uno il problema. L'hanno convocato, uno no, e quindi hanno deciso di non partecipare. Esatto, entrambi. Giustamente. Ok. Bene, sono invece. Gli attaccanti perché hanno i nomi complicati. Va bene, molto importante, perché l'abbiamo spiegato un po' la settimana scorsa, che il gaelico c'ha questo problema del barilotto di catarro che ti devi portare dietro per parlare. Allora, come dice Rowan Atkinson in una serie televisiva in britannica che si chiama Blackadder III, cioè la terza stagione, per dire i nomi gaelici bisogna farlo con una mezza pinta di catarro in gola. Ok, perfetto, bello, sempre belle cose. Terzi gaelici con mezza pinta di catarro in gola. Questo silenzio non ci piace. Vabbè, perché siete abituati che vi parliamo sopra, hai ragione. Ma siamo stati talmente tanto sgridati e spaventati da... Ti devi spaventare proprio così, che adesso non parliamo più, praticamente per tutta la puntata saremo muti. Esatto. Perché... Allora sentiamo Girasole che ci dice la formazione dell'Italia. Sceso il silenzio drammatico. No, ma io ho deciso di non parlare. Ah, hai deciso di non parlare. In realtà tu mi hai dato il microfono, ma non serve a niente. Non serve a niente. Però stai parlando in questo momento. Sto spiegando perché alcuni non hanno capito. Okay, quindi adesso. Da adesso in poi sarò muta. Va bene. Antonio Gattopardo, Gianluigi Balabanti. No, io conosco solo Chiellini, ragazzi. Che non gioca. Chiellini. Che è l'unico che non gioca stasera. È peccato. A posto di la formazione. Vai Francesco, vai. Allora, partendo dalla porta: De Gasperi, Pella, Fanfani, Scelba, Segni, Zoli, Fanfani, Segni, Ramboni, Fanfani, Leone, Moro, Leone, Rumor, Colombo, Andreotti, Rumor, Moro, Andreotti, Cossiga, Forlani, Spadolini, Fanfani, Craxi. Vabbè, basta. Borini. E tutti convocati. Bravo. Bravo, vabbè, sono una generazione di fanfani. Sono tutti i presidenti del Consiglio. Berlusconi, Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conti, Draghi. Ok. E in panchina? Sono tanti parenti in questo. Ha detto pure la panchina. No, perché, perdono, in panchina chi è il fa l'allenatore? Perché stasera non c'è Mancini, perché ha deciso di fare altre cose, di stare a casa. Sì, perché dicevo, oramai siamo qualificati. Che quindi di, insomma. In panchina chi ci sta, Francesco? Te trovi subito, allora. Sono cose là, come cavolo si chiamano? No, solo De Nicola, Einaudi, Gronchi, Segni, Saragat, Leone, c'è un tecnico però, quanti ne so? C'è uno staff di tecnici. Uno staff di allenatori incredibile. Perché allora, come gli italiani, sono tutti allenatori, quindi giustamente... Bene, dato che sta per iniziare, praticamente sta per entrare nel vivo la partita, io vorrei... che le stupide creature, però, che anche in questa volta sono impegnate per fare comunque dei collegamenti, delle cose eccezionali, ci presentassero un contributo importante, un tipo di una modalità, ecco, diciamo, di telecronaca sportiva che potrebbe essere interessante. Sì, abbiamo fatto una telecronaca, diciamo così, un commento sportivo in ASMR, questa cosa molto di moda che va adesso in tutto il mondo. Vabbè, ma se la spieghi... Adesso quelle cose vanno dette molto piano. Va bene, allora ce la sentiamo, va bene. Buonasera cari amici e benvenuti a questo consueto appuntamento calcistico in ASMR, giusto per stemperare i toni che tante volte accompagnano il calcio, questo sport così spettacolare. Questa sera parleremo della partita svoltosi questa fine settimana al campo dell'Alzate Brianza United assieme all'Ambrugo Sporting Club. Abbiamo qui con noi i nostri ospiti. Abbiamo il presidente Franceschini Lamberto dell'Ambrugo Sporting Club e il presidente Giuliano Bellissimo dell'Alzate Brianza United. A voi la parola. Come presidente dell'Ambrugo Sporting Club devo dire che questa sera ho assistito a una delle scene più pietose della storia del calcio, perché ci hanno letteralmente rubato la vittoria assegnando un calcio di rigore inesistente che ci ha messo spalle al muro al 92esimo, facendoci perdere per 1-0 dopo aver nettamente meritato la vittoria. Ecco, abbiamo sentito cosa ne pensa il presidente dell'Ambrugo Sporting e adesso sentiamo invece la versione del presidente Bello. La ringrazio per il tono bello, ma in realtà io sarei bellissimo così come mamma mi ha fatto. Devo essere in disaccordo con il mio esimio collega della compagine avversaria, in quanto il fallo c'era. Il difensore dell'Ambrugo Sporting è entrato sul nostro attaccante con una violenza, oserei dire, olocaustica. L'arbitro ha sentenziato giustamente il calcio di rigore per l'Alzate Brianza United, magistralmente segnato e portato a termine con un fulmineo punto dal nostro attaccante numero 10, a cui rivolgo i miei complimenti. Presidente Franceschini, aspetto una sua replica a queste affermazioni. Guardi, io le devo confidare che per quanto possa provare stima per il mio collega, devo necessariamente rendere noto che l'arbitro in questione ha già creato problemi alla nostra formazione. Il signor Perfetti, forse tanto perfetto non è. E la sua replica, Bellissimo. Il signor Perfetti nel nome una garanzia, come dicevano gli antichi nome nomen. Il suo arbitraggio è stato così di alto livello che in confronto a Collina si dovrebbe chiamare Vetta. Mi raccomando, presidenti, manteniamo un tono pacato, perché comunque il calcio è anche questo. E no, mio caro amico, purtroppo il calcio non deve, non può essere questo in alcun modo. Io qui ho una documentazione, mi lasci dire, io qui ho una documentazione impressionante circa il nostro caro collega e poi anche verso il nostro arbitro. Ecco, la documentazione ve la faccio sentire in ASMR. questa andremo in tribunale, perché noi chiederemo il rimborso di tutti i danni che ci sono stati provocati in questi anni. E quindi cerchiamo, problema. Cerchiamo, presidente, di mantenere i toni, per piacere, queste cose poco sportive a questa trasmissione non interessano. Cerchiamo di mantenere i toni pacati. Ma noi siamo sportivi. Lei non può dire ecco questo. Lei non può dire questo. Il signor Perfetti ha avuto un arbitraggio cristallino. No, ma che dico cristallino? Lindo, pulito. Signore, lei è un diffamatore. Diffamatore. No, diffamatore. Allora ci vediamo in tribunale. Allora ci vediamo in tribunale. Facciamo così. No, allora, no, allora. Ci vediamo in tribunale. Guarda, eh beh, mi sa che è finita male sta discussione, come al solito. Insomma, ci sono sempre cose un po' particolari. Che? Guardi, tra l'altro, no, perché a me le messere fa dormire, mi rilassa così tanto. No, diciamo che in generale fa anche un po' schifo, cioè, diciamo, come cosa, però questa versione, insomma, sportiva era abbastanza interessante. Comunicazione e servizio, non so per quale ragione, veramente non c'è una motivazione, ma praticamente la gente non ci sentiva. Adesso ci sentono. Ci sentono sicuramente, ho verificato, funziona tutto a chi posto. Lo fa fare? Perché le manine del mixer. E c'è il mixer funziona benissimo. Tra l'altro, grazie a Dio che ho registrato qualsiasi cosa. Insomma, sentite, allora, tanto qualcuno ha guardato che cosa succede in campo. No, perché io intanto facevo altre cose. Scusa, insomma. Mary, chiedo la Pizzi, scusa, scusi. A Mary, sì. Chiedo la linea dallo stadio. Sì? Mi sentite? Carlo Sant'Agostino! Salve, dai, Carlo! Trasmetto dallo stadio e sì. Mi hanno dato un fantastico nuovo computer. Oh, meno male! Meno male. Addirittura biprocessore. Si tratta di un Commodore 128. Grande, grande. Che con la immensa potenza dei due microprocessori, un 65010 e uno Z80, mi sta dicendo: salutiamo Girasole. Salutiamo Girasole. Salutiamo Girasole. In diretta con noi. Grazie, Girasole. Anche abbiamo vinto. L'ho detto che abbiamo vinto. Cosa? Non lo so. Abbiamo vinto. Qualcosa. Sì, abbiamo vinto. Ah, sì, abbiamo vinto l'Euro Contest Songs. Abbiamo vinto. Non so cosa, ma abbiamo vinto. Benissimo. Quindi, per adesso userò l'estrema potenza, poi quando volete mi richiamate, l'estrema potenza di questo fantastico computer biprocessore per dare la reale formazione d'Italia-Galles che fino ad ora non è stata ancora data. Ok, allora a questo punto, prima di passare a Marco Gualdi che ci spiega un attimo la questione, questa volta anche dell'animale, pure questa volta c'è un animale. Sì, perché fra un po' finisce la partita, insomma. Fra un po' finisce la partita. È finita. La partita. Volevo chiedere subito alle creature, estrema potenza, non era un brano del secondo disco? No, non del nostro, ma dei famosi, un famosissimo gruppo di Vercelli che si chiamano i Vermicelli. Ah sì, ricordo, c'era anche quell'album, quella canzone bellissima, Delenda Cartilagine, me la ricordo, era sull'infortunistica sul lavoro, una cosa del genere, bella canzone. Sì, era notevole. Macchina toccata, è un diesel, ve la faccio andare con l'olio di colza per risparmiare, perché è estrema potenza. Bella. Molto bella. Nel mentre c'è stata una fantastica incursione dell'Italia con il numero. Non so se si può dire qua la parola. Incursione. È ancora. Fantastica. Incursione, non si può dire. Ah, con la R. Ah, ho capito male, scusa. Ok, chi era Capello? Era pregna di Capello, sì. Era Capello. Addormentato. Con la mascherina messa da italiano medio. Tra l'altro, io l'altro giorno ho sentito parlare Capello, non so se siete d'accordo tutti quanti. Fai sentire Capello come parla. Abbiamo scoperto essere un vecchio, cioè. No, abbiamo scoperto di essere meno vecchio di quanto sei rotto la dentiera, di quanto dimostri di essere. Quella è la cosa bella, che l'Italia siamo scuri, caro. Esatto, ora dice, vabbè, ci avranno ottantina d'anni, invece ce n'ha malapena 70, insomma, quindi... 74 anni, cioè. Capello, con tutti i soldi che avrai vecchio guadagnato nella tua vita, hai fatto una dentiera, insomma, cioè, ce l'avrai, l'ha fatta la dentiera Prensi, l'opportunità, ha fatto la dentiera di Berlusconi uguale a quella di Berlusconi, è perché l'ha consegnata lui, la fiducia, il popolo ha perso la fiducia, che sono momenti importanti, insomma, vabbè. E, ti sta piacendo la partita, Girasole? Sì, sì, assolutamente sì. Senti, si lanciano la palla, stanno correndo tanto. Chi è che sta dominando, diciamo? Ma secondo me stanno metà e metà ancora. Metà e metà, attualmente stanno proprio a centrocampo, quindi. Sì. Allora io ti faccio questa domanda: dopo quanti tocchi? No, insomma, facendo una domanda, amica. Sì. Dopo quanti tocchi? Dopo quante volte che si viene toccati dalla palla, si viene eliminati? Ma dipende, con le mani o coi piedi? No, con le mani no, perché mani no. Si sa che con le mani non si può fare. Volevo dire che oggi Girasole, mentre dormivo sul lettino al lago, sì, mi ha spiegato la regola del fuorigioco. Sì. Quindi non me la ricordo. Non c'è destino. Io non c'è. Vabbè, allora ce la spiega Girasole. No, allora, ieri sera stavo guardando la partita Spagna-Polonia. Brava, sì, brava. Per sbaglio. E a un certo tra punto, tra l'altro, la Spagna rischia, rischia. Infatti, sì, alla fine hanno fatto 1-1. Però, no, insomma, diciamo che vabbè, hanno abbastanza dominato la partita. Comunque, a un certo punto la Spagna fa gol, ma fischiano il fuorigioco. E allora mandano il replay. E nel replay, effettivamente, c'era di tu. Tutti. Hai capito di tua sponte? Sì, hai avuto un'illuminazione. Sì, bello. C'era un giocatore spagnolo che era totalmente fuori gioco. Stava il più vicino alla porta, sulla fascia destra, avanti a tutti. Ok, ma in realtà ho scoperto che il fuorigioco poi però il fuorigioco non gliel'hanno dato, perché okay, in realtà il fuorigioco dipende dal giocatore a cui viene tirata la palla. Ok, quindi allora c'era uno con la palla. Ricapitoliamo. Se un attaccante, sì, è oltre la linea dei difensori, sì, e gli passano la palla, è fuori gioco. Se invece lui è oltre la linea dei difensori, ma la palla va da un'altra parte, esatto, e si gratta la palla, non è fuori gioco. No, quello non è fuori gioco mai. Aspetta. Scusate che vado a dormire. Arrivederci. Tranne però quando? Ecco, qual è l'eccezione? E tranne l'eccezione? Però quando gli tirano la palla a lui in faccia. No, in faccia. Se gli tirano in faccia, lui non può più. Vero, Michele? Se gli tirano la palla in faccia, c'ha tutto il diritto di menare a tutti. Proprio fa assolutamente. Goio. Ah, la violenza. La violenza prima di tutto, anche perché stiamo giocando col Galles, che hai risaputo che è un popolo abbastanza violento. Che era la Spagna. Non è la Spagna questa. No, quella di ieri. Che ha costruito, ha costruito le sue radici di Rossi, ecco, sulla violenza. Quindi il fuorigioco dov'è? Il fuorigioco dov'è? Sta nel fatto che uno alza le mani. Il fuorigioco è qui. Ah, sì. È dentro i nostri cuori. Sta nel fatto che ti faccio sbroccare, esatto, e che ti do un sacco di botte. Comunque, okay, io vorrei, esatto, fare, diciamo, un appello ai giocatori italiani: fatevi un tatuaggio, siete tutti uguali. Cioè, mettete un disegnino addosso. Ma c'hanno tutte le magliette tutte uguali. Scusa, non se le potrebbero mettere differenti? C'è ragione. No. Poi dopo diventa un casino. Cioè tu forse no, tutte tu lo sai perché, tu sai perché dici questa cosa? Dici questa cosa perché, sì, non hai mai giocato a pallone nella piazzetta con i lampioni mezzi bugli? No. E lì succedevano i casini perché passavi la palla a quello che era sbagliato. Però potrebbero fare i lampioni cosa ad essere mezzi bugli. Ci sono dei lampioni che non fanno tanta luce. Perché lui si ricorda quelli a olio, che quindi l'olio stava finendo, e la luce, okay, era fioca. No, okay, quelli ad olio. Infatti c'era una canzone: l'olio sta finendo. Comunque potrebbero anche giocare semplicemente tutti con le mani diverse dagli avversari. Io giocherei allora, calcio femminile tutte nude, prima di tutto. Ecco, la solita battuta sessista, tutte nude, cioè al massimo diciamo la regola, una striscia di vernice che gli indica di che squadra sono. Ah, quindi le tette verniciate. Le tette verniciate, bravo. E magari sul fango anche. Verniciate sul fango. No, loro devono giocare sul fango. Sul fango, come Fantozzi, nella partita di Fantozzi. Però dicevi, Sant'Agostino? La regola di quando un calciatore può cambiare il colore della maglietta, no? La, esatto, famosa regola. Esatto, quella ce la spiega Michela, però. Quando puzza di sudore. Esatto. Quando puzza Il giocatore può cambiare la maglietta se la scambia col giocatore avversario soltanto alla fine della partita. Ah, solo alla fine, perché durante la partita non si può fare. No, perché sennò diventa avversario lui e amico quell'altro. È un casino. I gallesi lo uccidono. Però durante il Covid, cioè col Covid non si può più fare, non ce la possono scambiare più la maglietta. No, ma vabbè, ma se possono sputare in faccia, cioè, si abbracciano, si ammucchiano e se sputano in faccia. Però le magliette no, non si può fare. Okay, non è diseducativo e antigenico. No, è il Covid, hai visto che qualcosa la so pure io. I protocolli Covid, bravissima. Senti, guardi, allora, questo l'animale di questa settimana. Gunther. Abbiamo scelto Gunther, non è Gunther. È Carla il pesce palla. Abbiamo preso appunto questo nuovo bellissimo Carla come la nostra nuova ascoltatrice, quindi. Esatto, no, sì, in realtà si chiamava Androfila il pesce palla, però abbiamo chiamata Carla in onore. Adesso pensa se Carla si offende perché dice allora mi stai a dare il pesce palla. No, Carla si offende. Ci andava di renderla partecipa. Brava Carla, brava Carla, brava Carla. Io dedicherei una canzone a Carla questa settimana. Ma settimana Carla chi? L'abbiamo dedicata a Girasole la canzone. Carla il pesce palla o Carla l'ascoltatrice? Carla l'ascoltatrice. Perché sennò hanno due canzoni differenti loro. Esatto, fanno due fini diversi. Sì. ecco la canzone a Carla. Carla, il pesce palla. È differente da Carla donna è più carina, è più snella, è meno gonfia. Che bella canzone. Vabbè, guardi, torniamo alla nostra Carla, cioè al nostro... quando Carla si è iscritta al gruppo, io stavo per fare una gaffe tremenda perché pensavo fosse Carla. Ah no, ok, no. No, vabbè. Ma continuiamo ad avere praticamente ad accogliere le nostre ascoltatrici. Calla, vai. Allora, guardi, spiegaci questa come funziona la previsione, allora, la precognizione di questa puntata e poi il nostro ben amato Carla, praticamente pesce palla, ha questa capacità, cioè lui si gonfia o lei si gonfia, in realtà è un maschio, però per fare rima con palla. Ah, pesce palla, giustamente. Okay. Però lui si gonfia. Okay. E diventa una palla. So che pesce palla è, se pesce diventava palla, un cubo, esatto. Era un'altra cosa. Che tra l'altro i giapponesi lo mangiano, però bisogna farlo cucinare solo a degli chef. Quello è il fugu. Quello è il fugu. È il pesce palla. Esatto, è il pesce palla. No, un pezzo del pesce palla. Pesce un pezzo. Il fugu è il pesce palla. Comunque, tu che fai praticamente con pesce palla? No, tanto non si. Praticamente per contratto, prima della rivelazione del pesce palla, non è possibile. Allora, praticamente tu prendi il pesce palla. Un po' solo si dia prima, esatto, del pesce palla. Lo metti dentro un acquario dove ci sono posizioni due porte, una dedicata all'Italia, l'altra dedicata in questo caso al Galles, e praticamente nuota a seconda delle volte in cui entra dentro le varie porte. Abbiamo il risultato finale. Ok, quindi bisogna stare lì a guardare sto pesce palla. Sì, ma ci mette proprio qualche minuto. Vediamo il pesce palla che se è pronto, insomma, mi sembra abbastanza tranquillo, insomma, vedi che nuota. Ma dove lo vediamo questo pesce palla? Che lo senti, lo senti? Lo sento, ma non lo vedo. Non devi vedere, devi immaginare. Fracce, ma senti un po', come si fa per fare dai via? Cioè io lo batto sul vetro, che devo fare? Devi per fare sul vetro devi fargli vedere la carta da 100. Allora aspetta che ecco qua, bravo, ha visto la 100 euro. Ecco. Questo rumore adesso mi ricorda qualcos'altro, però fa niente. No. Ok, adesso sta andando. Ecco, è entrato dentro la porta. Io che seduto nella vasca e metto delle bolle che sta in galla. Ecco, sta facendo la previsione. È un gol per l'Italia. Incredibile. Ok, ottimo per noi. Un gol per Galles. Si è buttato dentro la porta del Galles così repentinamente. Un 1-2 al contrario, però. A casaccio sta. Ecco, ancora in Italia. 2-1 per l'Italia. Adesso si sta posizionando al centro, quindi per lui è finita. È finita così. 2-1 per l'Italia. Ok, perfetto. Oh, un po' palloso, posso dire, sta animale. Vabbè, è un animale palla, quindi è un po' palloso. Che la volta scorsa avete trovato un animale divertente, insomma. Quindi... perché il wombato è un bellissimo. Beh, era più animale, simpatico. Marsupiale, che c'ha il marsupio al contrario. Protestava, diceva la sua, quindi alla fine era comunque più divertente. Esatto. Cioè, pesce vabbè, quindi ha fatto la sua presa anche questa volta 2-1 per l'Italia. Anche questa volta 2-1 per l'Italia, quindi lo stesso risultato dell'altra volta, che però poi casualmente è cambiato così poi in corso d'opera. No, questo è 2-1, no, siamo comunque sicuri. Cioè, rimanete su quello che dite, pesce palla, perché poi non è che potete cambiare in corso d'opera. No, ma le bolle sono interpretabili. Esatto. No, ma i gol sono quelli. No, perché il pesce palla, ma mica sa le bolle del malocchio, dentro l'acquario ci sono delle porte, e lui a secondo di quante volte entra in una porta piuttosto che in un'altra, Mancini che fa... Mancini tira la palla, tira la palla, tira la palla e fa la tira. Uè. Ma siete in ritardo voi nella visita? Sì, sempre. Sì, noi siamo sempre in ritardo. Siamo al 18 minuto e 54 noi secondi. Ma io sono a 14 minuti indietro. Come a 14? Io sì, io sono invece un po' in ritardo. Noi abbiamo le refrescia. Noi abbiamo tutti un ritardo. Sì, noi considera che solo qui in studio ci abbiamo tre fasce temporali diverse, quindi ce lo dicono tutti, avete il ritardo e quindi infatti è giusto così anche. Insomma, comunque il nostro amico Carla ha fatto la sua previsione, perfetto. 2-1 per l'Italia. E noi speriamo che finalmente si riesca a trovare un animale che ci azzecca, insomma. Anche perché, allora, se non ci azzecca, alziamo la temperatura. No, sì. No. Sì, sì. Togliamo il chiusino e lo mandiamo dentro. Accesso. Giusto, sono d'accordo. No, a parte che è una cosa crudele, perché il pesce palla respira nell'acqua di mare, quindi sarebbe terribile mandarlo. Ho capito, ma quindi noi abbiamo intenzione di liberarcene in un modo più. Lo volete mangiare? Lo vogliamo. Io non lo voglio mangiare il pesce palla. No, non te lo sconsiglio, guarda, se non sei capace di caparlo, insomma, non merito. Facciamo un break? Ma non abbiamo neanche cominciato. Ma come? Facciamo un break, questo è importante, perché si ricollega a quello che abbiamo detto a inizio puntata, ma a una cosa che abbiamo detto nella scorsa puntata, dove tra l'altro giustamente Mauro ha fatto anche notare questa cosa, cioè nel senso che loro hanno una canzone specifica, insomma, proprio su questa cosa qui, che è le donne un po' implastichite, diciamo così, no? Giusto, ragazzi? Quindi sul pesce palla? Giusto. Presentaci la canzone, spiegaci. Che la canzone è una canzone che si spiega da sola, quindi posso dirti il titolo, Dr. White, e appunto tratta questa cosa dove la cosmetica non è più sufficiente per la beltà dell'uomo e della donna in generale. Bene, ascoltiamocela, perché è molto. Tutti quelli che mi conoscono sanno quanto sia fissata con la chirurgia plastica e sanno che non solo il mio corpo, il mio viso, ma tutto deve essere perfetto. E adesso anche il mio sedere sarà perfetto. Non ti senti sicura ed è una parte troppo scura. Se ti senti disorientata, tutta docciata e profumata, fai del dottor White, fai del dottor White, fai del dottor White. Se vuoi essere alla moda, rimanendo bella e soda, se investi sull'estetica, non puoi fermarti alla cosmetica. Vai da Dottor White, vai da Dottor White, vai da Dottor White. Abbiamo ideato lo sbiancamento anale perché abbiamo ricevuto molte richieste. Mi sono informata bene, ho trovato un prodotto che si chiama Wonderful Anal Bleach. Serve a schiarire il colore della pelle più scura che si trova intorno all'ano, facendola intonare con la normale pelle del sedere. È molto semplice. Il dottor White è una persona per bene, non si parla di banali allungamenti del pene, non è un rude o filano, lui vive per biancare l'ano. È professionale ed ha molta esperienza di clienti mai in essenza, i jet-set e le star sono già stati là. Voglio di più, prodotto faremo la ceretta nella zona anale, leveremo i peli e poi applicheremo direttamente il prodotto sbiancante. Molto bene tesoro, adesso mettiti i carponi. Dobbiamo fare la ceretta, non è affatto spiacevole. È una bella sensazione. In più è molto igienico. Uno, due, tre... Niente? No. Vabbè, ma io tra l'altro facciamo un applauso prima di tutto. Bravi, ma poi vorrei sapere dove è finito il loro rock and roll. Rock and roll, siamo rimasti con stavano lì rock and roll. Ma poi diciamo, al di là del valore morale, no? Quindi giustamente c'era anche, come posso dirla, dello sbiancamento anale per fare ripetere. Esatto, no, perché ti devi vergognare un po' quando fai queste cose, secondo me. Sì. Però io c'ho una domanda proprio tecnica per Marco Bianchi, perché voi sapete che loro sono dei musicisti con i controcoglioni, insomma Marco fa i concerti, jazz, insomma bla bla. Nel senso che suonano con i controcoglioni. Con i controcoglioni, è proprio uno strumento, si chiama controcoglioni, uno strumento. In particolare però Marco suona il vibrafono, giusto Marco? Precisamente. Precisamente, però io quello che mi domando, c'è un bellissimo assolo a un certo punto nel brano, no? Dove tu fai questo assolo di vibrafono, suppongo che sia il vibrafono, giusto? Perché non è che si Precisamente. Allora, la domanda che ti faccio, ma tu, no? quando fai gli assoli di vibrafono, conosci tutte le note esattamente a memoria oppure vai a casaccio? Cioè, questo che è, tipo spingi così con le bacchette, no? La domanda è interessante. Pertinente. Grazie per avermela posta. Esatto. Però rispondi, no? La risposta è sì. Ah, devo rispondere. Ah, no, scusa, ho pensato di essere soltanto a commentare la domanda. No, assolutamente. C'è uno studio dedicato ad ogni singolo accordo. So che sembra che stia dicendo una fesseria, ma è la verità. Cela delle note precise. Quindi poi tu devi collegarle estemporaneamente. Bene, bene, interessante. Intanto durante la canzone il Gallo Belotti si è mangiato un gol. Esatto. E poi anche il Galles, insomma, ha provato a fare un paio d'azioni. E adesso, proprio in questo momento, insomma, siamo andati vicini. Però in questo momento l'Italia non ha fatto gol per una questione di culo. So se vabbè, hanno cercato di riproporre l'autogol della prima partita, ma non ci sono. No, però è letteralmente un calcio d'angolo adesso. Cioè, sì, c'è un rigore dall'angolo, come giusta Michela? Ovviamente sì, c'è un rigore ad angolo e la palla finirà in testa ai tre giocatori che non si sono inginocchiati durante la Madonna. L'omaggio a Black Lives Matter. Tre giocatori italiani non si sono inginocchiati durante l'omaggio. I gallesi? Quindi, i gallesi tutti, ovviamente. Okay. Questo riferito da Walter Sbano, ma ovviamente. Beh, mi documenterò. Confutato, ma non riesco a capire chi sono questi tre giocatori che non si sono inginocchiati. Lo scopriremo. Che schifo, veramente. Comunque, il pallone deve finire ripetutamente in testa a sti tre fino a ucciderli tutti. No, ovviamente sì. Va bene, ma tu raccontaci di quella volta. Come animali predittori nelle prossime volte. Esatto. Michela, raccontaci di quella volta che sei stata in Galles. Non credo di essere mai stata in Galles, però sono stata molto spesso in Irlanda. Secondo me ci sei stata, se ti ricordi, cerchi nella tua memoria, secondo me ci sei stata. Quando sei andata in Russia? O il Galles è stata in te? Secondo me ti sei fermata qualche giorno in Galles. Secondo me, perché è di strada, quindi vede strada. No, vedete, quando sono andata in Russia mi sono fermata in Germania. Però, che è un tiro di schioppo dal Galles. Però sono stata molto spesso in Irlanda, praticamente tipo 2-3 volte l'anno, e negli ultimi tempi un paio di volte l'anno. E soltanto che anche lì parlano gaelico, quindi non so se può aiutare. Non so. No, innanzitutto non parlano gaelico, gargarizzano. Si dice proprio un termine di esatto. Gargarizzare, esatto. Il gaelico. Esatto. E con questo salutiamo gli ultimi 5 ascoltatori del Galles che ci hanno lasciato. Insomma, non penso ci siano mai stati. Bellissimo il Galles, bellissimo il Galles. Ci è rimasto fa nel bene cuore. Pelle, fa bene la pelle, i capelli. Se non parli meno, non, in realtà non mi sembra mai di essere stata. Non è un problema. Se gli faccio la stessa domanda a Girasole, so già che lei non c'è mai stata in Galles, perché Girasole è stata solo in un posto, fondamentalmente, che è l'isola, Gianudri. È l'isola di Gianudri, esatto. Sulla quale ci può raccontare che per lei è come se fosse il Galles. Poi, fondamentalmente, sì. Perché in gaelico Gianudri si dice e quindi è molto simile al Galles, esatto. Bene, vabbè, alla bene. Fine, scusate, nel Galles non c'è anche la costa, non c'ha pure il mare, il Galles. Il famoso mare del Galles. Considerando che il Regno Unito è un'isola, dove vai, prima o poi. Se non c'hanno il mare è un'ingiustizia. Poteva capitare come l'Umbria per noi, insomma, alla fine. Comunque invece è capitata sul mare. Che sono 5 quelli che non si sono inginocchiati. Addirittura, dici quali sono, tu che sai. Toloi, Emerson, Pessina, Bernardeschi e Belotti. Belotti, bene, bravo. Sì, però qua dicono secondo che sembrerebbe che non abbiano sentito il fischio, di non se ne siano accorti. Ma secondo me non avevano capito, infatti. Non sapevano manco che cosa stavano. Vabbè, quello è ancora più probabile. Intanto l'allenatore del Galles bestemmia. Fai sentire, Marco. Esatto. Bene, andiamo un po' dalle stime. Non stava a schiarire la voce, mica. Lui stava dicendo: Galles. Accidenti a voi. Galles? Il Galles non ha dato i Natali a Galles. Al tuo film preferito, che è Sbiancamento anale in Galles. No. Qual è il mio film preferito? Il Galles, quello che racconta la storia del Galles. Galles. Ovvero? Ovvero quella pazza storia del Galles. Vero non mi viene il nome, ecco, viene... Va bene, come mettersi fai una ricerca... alle spalle al muro da soli. Esatto, poi fai una ricerca su Google e poi ce lo dici. Stupide creature. Mi è venuto un attimo. Tu sei che tu sei. Stupide creature. Ci siamo, dici. No, no, dite voi, fate qualcosa, estemporaneizzate. No, io mi è venuta in mente una cosa, prima parlavate che sembrano tutti gli azzurri uguali, no? Avete mai provato a giocare a calcio con 22 cinesi? Cioè da soli contro 22 cinesi? 22 cinesi con la stessa maglietta poi. No, impossibile. Ma anche con la maglietta differente. Vabbè, questa però è una battuta un po' razzista, diciamocelo, eh. Cosa che noi non facciamo mai, assolutamente, ed è completamente fuori dai nostri schemi. Avete mai provato a giocare una partita di pallone, diciamo quasi di sera, diciamo dopo il tramonto, con una squadra di ragazzi negri? Però c'è l'illuminazione. Al buio difficile. No, io li riconoscevo solo quando sorridevano. Perfetto. Perché noi non ci facciamo mai. Anche noi abbiamo la nostra quota nera. Esatto, esatto. Non ci adesso facciamo... non ce l'abbiamo più. Esatto, è chiaro, ma è noi quello è lo scopo. Lo scopo, come nel film Highlander, è quello di rimanere, deve rimanere uno solo. Certo, azzerare tutti gli ascoltatori. Bravissima. Fantastico. Mentre che lì erano loro che combattevano per la sopravvivenza, noi vogliamo arrivare a un solo ascoltatore. Ok, che stando a quello che vedo nella chat, più o meno, insomma, sì, è quello che. Quello ascoltatore vincerà tutto, saprà tutto. Esatto, del mondo. L'ascoltatore che rimarrà per sempre ad ascoltare. Ad ascoltare. L'ascoltatore anche dopo che la trasmissione, tra l'altro, vincerà una. Scusate, ma Carla non ha scritto oggi. Comunque, no, Carla, secondo Carla. Me è entrata. Cioè, noi dobbiamo taggarla. Vincerà un soggiorno presso la Pozzanghera di. Dov'è che andate voi? La Pozzanghera, si chiama Pozzanghera. La Pozzanghera. La Pozzanghera. Vabbè, comunque in realtà sono entrate due donne ultimamente nella chat. Una svizzera, dopo Italia-Svizzera non si è più sentita. E quindi... Carla. No, e poi Carla, che dopo Italia-Svizzera non si è più sentita, ma com'è? Quindi insomma Italia-Svizzera ha fatto bene, ha fatto il suo dovere, giusto Marco Bianchi? Ma probabilmente sì, è stato un incontro molto sofferto da entrambe le compagini, ma soprattutto tra coloro i quali si sono iscritti alla chat della radio. Penso che questo sia stato determinante. Ok, ma tu ti sei iscritto alla chat della radio? Assolutamente. Non sono convinto di questa cosa, sai? Sì, sì, sì, il problema è che non collaboro. Non collabori? Che significa? No, c'è, è vero. Cioè, allora sì. Vedi, la spienda da attenzione, subito. Attenzione, attenzione. Io sono andata a controllare. E Gallo Belotti quasi... Io, ragazzi, non riesco a capire questo come fa a fare il giocatore. Sembra il Gobbo di Notre Dame. Salutiamo tutti gli amici Gobbi. E tutti gli abitanti del Notre Dame. Tifosi scogliosi, vi salutiamo da qua. Non invidiamo le vostre deformità. È un po' progressivo questa cosa. Il mal di schiena. Fate ginnastica correttiva. Che è tipo gli area questo. Salutiamo gli area, bravi. Bravi. Acqua l'anima di Demetrio. Tromba di culo. Sanità di corpo. Aria. Mangiate i fagioli stasera. Ho movimenti intestinali molto strani. Mi sento come la mina, l'animaletto della settimana scorsa. Il bombato. Bombato. Bombato. Bombato. Il bombato. Se non è mai scorreggiato, fai la dieta del bombato. Bombato. Bene, bene. Allora, ragazzi, è successo che a un certo punto un giocatore del Galles ha fatto fallo sul giocatore del Galles. Ha segnato l'Italia. Aspettate, che noi. E allora non lo dite, no? Ho capito, ma sento gente si che sento, urla. No? Io mi preparo con la trombetta perché so che sta per segnare l'Italia. Ci hanno spoilerato. Comunque, Tromba, ancora non è. Così, sono dovuti senza neanche comunque il giocatore è caduto per terra e l'arbitro è andato a fare col gessetto praticamente il segno tipo del morto, che quello non si era neanche rialzato, capito? C'è andato là. Cioè, veramente una cosa incredibile. Io non c'ho più la diretta. Spoiler. Ci stanno spoilerando il gol d'Italia. Non c'è più la diretta, aiuto! Qualcuno me la racconta sto gol. Ecco, allora c'è il calcio di punizione sul versante di destra dell'area di rigore e ci sono due giocatori d'Italia che si apprestano, uno fa la finta, l'altro cross al centro, colpo di testa e rete! No, colpo di ginocchio, che colpo di testa. Sta spaventata la Scozia. Eh vabbè, pazienza. Non mai ci abituata a spaventarsi. Il gol dell'Italia ha segnato. Botte. Si menano i tifosi, i giocatori dell'Italia. No, basta, mica, stiamo 3-0 così. 3-0, chi ha segnato? Gliene famo tre. Chi ha segnato? Non lo so. Biastima. Chi ha segnato? Sant'Agostino. Aspetta, mo che capita pure a me, vedo io. Un attimo che accendo il computer. Verratti è stato buttato per terra per sempre. E ha segnato, non lo so. Ha segnato quello che ha tirato. Devono segnare da me, dai. Il 12 non ha parato il gol, quindi è una storia fra i numeri 12, qualcosa di tacco, di mamma mia. Ma con un gollone proprio, ragazzi. Cioè, proprio dall'angolo. Intanto c'è una signorina italiana che zompa sballonzolando le proprie tette. Simone, diciamo così, sei a prova di calcio? No, sei abbastanza lontana, insomma. Sì, no. Bene. Ma Simone Vailati che dice in tutto questo? Ah no, non c'è. Simone Vailati. No, ma è bello il tempismo con il quale noi informiamo. Matteo Pessina. Pessina, prego, sentivo una voce femminile. Grazie Sbano che ci hai detto chi ha segnato. Grazie. No, veramente ci ha detto Sbano e si è arrabbiato che non leggiamo la chat. Ah, c'ha ragione. Dobbiamo leggere la chat. Dobbiamo leggere. La chat legge noi. Veramente l'ho letto io, però fa niente. Infatti, è vero. Però noi chi ce lo dice che tu non hai letto sulla chat? Scusa. Ah, regà, cioè. Veramente io non so, cioè questo è un, vabbè, per festeggiare il gol dell'Italia, a questo punto ci andiamo a sentire un pezzo di repertorio. Cari amici, benvenuti a Podcast Risveglio. Anche questa mattina ci troviamo di fronte alla casa del signor Tagliabue per vedere come andrà il suo risveglio. Abbiamo qui con noi chiaramente il grande Simone Vailati per un commento tecnico circa quello che stiamo. Ciao Marco, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Grazie mille Simone, sempre per la tua gentilezza. Stiamo appunto assistendo al risveglio. Il signor Tagliabue ancora non si è addestrato. Pare che la sveglia ancora non sia suonata. Ecco, suona in questo momento. Attenzione, sveglia forse Tagliabue. Ecco, sembra un suono agitato. Ecco, ci puoi descrivere tecnicamente che cosa accade con la sveglia? Perché? Beh, guarda, di solito funziona in questo modo: la sveglia è composta da un batacchio di metallo che muovendosi percuote una campana, anch'essa di metallo. Certo. E questo contatto di questi due metalli propaga delle onde sonore che vengono raggiunte dall'apparato uditivo. Uditivo del soggetto. Quello che sta succedendo in questo momento. Sta funzionando perché lui effettivamente si sta muovendo. Attenzione, adesso il signor Tagliabue riesce a destarsi, sembra un po' impannato, effettivamente si sta grattando un sopracciglio, adesso riesce addirittura a cercare di infilare le proprie pantofole in modo un po' goffo e svogliato, sembra essersi destato seriamente, invece no, attenzione, c'è una ricaduta. Simone, lo vediamo che sta ricadendo in questo momento. Questa è una tipica ricaduta, si vede da come si sta riappoggiando sul fianco. Come mai succedono queste cose, Simone? Queste cose succedono perché non si è svegliato completamente. Sì. La sveglia non ha avuto una funzione tipica. E infatti interviene la madre. Attenzione, in questo momento interviene la madre, sembra lei suggerire possibilità di riuscire a risvegliare quest'uomo. Beh, che, attenzione, Tagliabue però non sembra sentirla. Ecco, no, si sveglia in questo momento. Sì, la madre è particolarmente innervosita. È un'azione veemente, questa può funzionare. Questo succede perché aveva le ciabatte, sta sporcando le lenzuola, può essere? Può essere. Attenzione, Tagliabue in questo momento si sta dirigendo verso il bagno, si sta dirigendo con controvoglia, ma in questo momento è sveglio. Possiamo dire che in questo momento si è svegliato? Possiamo dire che è sveglio, ha superato la fase critica e sta avendo un buono slancio. E si sta dirigendo verso la cucina, questo sbaglio o mi sto sbagliando? No, sì, Tagliabue è verso la cucina, sta andando verso la cucina. Attenzione, da sole, verso la cucina. Attenzione, sta per entrare. La colazione sembra già servita. La sua madre lo destra. Attenzione, no, è incredibile. C'è il caffè, Simone, c'è il caffè. Questo lo possiamo dire. Questo è assolutamente del caffè. Sì, come mai c'è il caffè in questo momento? C'è un'azione di stasi. In questo momento non sa se sedersi o stare lì. È una fase molto difficile perché sta decidendo. Il caffè può sicuramente aiutarlo. Che mattinata incredibile. Attenzione, perché lui sta avvicinando in questo momento la tazzina alle labbra, sembra deciso quasi a bere, sembra tentennare in questo momento, no, invece no, prova a ingoiare, no, niente da fare, scotta troppo. Come mai scotta? Può essere il motivo, può essere la questione termica? Il motivo è assolutamente la questione termica, perché il caffè subisce un riscaldamento. Attenzione, che lo beve, lo sta bevendo in questo momento, incredibile, prende anche un biscotto, gli scivola dalle mani, no, però rimane comunque è al buco. Sì, più che altro il problema è che si è sporcato e in questo momento forse deve tornare in bagno, ma pare che la madre lo stia ancora incitando per uscire. Sembra in ritardo in questo momento, però sembra in ritardo. In questo momento sembra in ritardo perché si vede che ha bevuto troppo poco caffè e non gli ha permesso uno slancio continuo. Intanto però attenzione, fuori da casa c'è la nostra inviata Marika Fraquelli. Riesce a intervistare Tagliabue per cortesia e a fargli qualche domanda su questo primo risveglio? Sì, aspettate perché un attimo si sta allontanando. No, signor Tagliabue? Sì, sì, sono io, si dica. Sì, buongiorno signor Tagliabue. Eccoci qua, sì. Buongiorno signor Tagliabue, permette una domanda? Ma certo, prego. Le sue impressioni a caldo sul risveglio quali sono allora? Bah, sì, un risveglio difficile, pensavo di farcela, ho avuto una ricaduta di sonno, poi alla fine grazie a mia madre sono riuscito a alzare. Le madri, sono proprio quel quid. Sì, anche se ho avuto difficoltà nell'infilare le pantofole, non ero molto lucido, sono incamminato verso il bagno a fatica, alla fine... Ma poi l'azione scattante ha avuto il sopravvento. L'urinare diciamo che... mattutino ha avuto un risveglio importante. Stiamo per metterci così una qualche osservazione, direi qualche tentennamento sul caffè? Sì, ottima osservazione, il caffè era molto caldo, bevendolo tutto d'un fiato avrei rischiato l'ulcera, quindi ho preferito aspettare un paio di minuti e berlo in tranquillità. Il gioco si è visto, in effetti la tattica si è notevole, ha dimostrato sempre la grande stoffa. La tattica è stata vincente, ora vado al lavoro invece di andare all'ospedale. Grazie signor Tagliabue, come al solito, grande campione. Vieni allo studio. Bravi! Signor Tagliabue, uno di noi! Signor Tagliabue. Uno di noi! È finito il primo tempo. Allora, Carlo Sant'Agostino, quali dati statistici hai raccolto con il tuo Commodore 128? Con il mio Commodore 128 ho raccolto questi dati statistici. Quindi abbiamo avuto 27 elastici ammollati, 32 fili d'erba strappati e 475 sputi. Secondo me i fili d'erba non li ha contati bene, mi sembra. Sì, secondo me non ha invertito gli sputi con Sì. Può darsi che si siano invertiti questi due dati, avete ragione, sì. E manchi anche qualche zero magari, però fa niente, tanto del doppio processore non ce la può fare comunque, è limitata. Aspettiamo nelle prossime puntate quando mi daranno finalmente dei computer moderni, quindi più moderni di quello che sto utilizzando adesso, anche se in realtà in questo momento il computer mi sta dando la reale formazione dell'Italia, no, e del Galles. Non so perché, ma va bene. Allora, il Galles è la formazione del Galles è Skywalker, Solo, Leila, Kenobi, D3BO, C1P8, Fener, Chewbacca, Tarkin, Lars, Beru e Biggs Darklighter, che non mi ricordo chi sia, però c'è dentro nell'Italia. Ok, quindi è la formazione mista, quindi. Questa è la formazione, scusa, del Galles. L'Italia invece è formata da Kirk, Spock, McCoy, Scott, Ura, Chekov, Sulu, Rand, Chapel e Mood. Va okay. Bene? Sì, sono un po' di meno, però va bene, facciamo finta che vada bene. Intanto, Gualdi, noi abbiamo fatto un sondaggio oggi pomeriggio per sapere, insomma, il classico sondaggio che facciamo ogni volta. E che cosa, quali sono? La domanda era: come finirà Italia-Galles? Mancava una risposta, però. No, non ci frega niente, c'erano quattro risposte. La prima era: vince l'Italia perché prima gli italiani. La seconda era: io preferisco la Scozia separatista, ma pure i gallesi vanno bene. La terza era: se gioca il Gallo Belotti, allora la pareggia da solo. L'ultima era: dipende sempre e solo dalle stupide creature. Allora, andiamo subito con la prima o facciamo No, vediamo i risultati, cioè chi cosa. Allora, all'ultimo posto è: se gioca il Gallo Belotti, allora la pareggia non da solo. Non l'hanno cagato. Pochi, insomma, pochi voti, okay. Sì, pochi. Bravo, bravo Belotti. Bravo. Subito dopo c'è: vince l'Italia perché prima gli italiani. Esatto. Ok. Al secondo posto, quindi, dipende sempre e solo dalle stupide creature. E quindi al primo posto, con il 46% delle preferenze espresse dagli aventi diritto, preferisco la Scozia separatista, ma pure i gallesi vanno bene. Ma perché non avete messo Ciro? Ciro chi? Ciro. Me l'hanno impedito, perché dicono l'altra volta. Vinceva lei ancora. Ha detto che vinceva sempre, quindi non era fattibile. Intanto sulla Rai fanno pubblicità di Netflix, bellissimo. Se paghi fa la pubblicità di qualsiasi cosa. No, infatti. Siamo tra la fine del primo e il secondo tempo. In realtà avrei potuto mandarlo adesso. Adesso il brano, però vabbè, oramai l'abbiamo fatto, quindi cerchiamo di ma vomita anche, non c'è problema. Potremmo avere delle patatine, per favore? Sì, esatto. Sì, vorrei le patatine anche io. Va bene, andate. Ci sono solo le Fonzis, quindi per non so se andate dove è andata anche la patatina. Esatto. Però possiamo trovare qualcosa, secondo esatto, me. Si vuole delle zucchine, dagli una zucchina, sì, dai una fritta e va bene. Zucchine croccanti. Io vado a cercare qualcosa. Alle 7, io tra un po' vado a cena, quindi ecco. Prima, chi se ne frega, tanto l'Italia abbiamo già vinto. Abbiamo già vinto, vero? Perché tu già lo sai, no? Perché va bene, allora intratteniamoci un po' con le stupide creature che e poi dopo, anzi, possiamo fare quel collegamento lì, giusto? Che dite? Facciamo il collegamento con il nostro scienziato preferito, voi che dite? Sì, per me è disponibile. Sentiamo Marco che dice. No, per me è un onore poter ascoltare uno scienziato, quindi io molto volentieri. Cioè uno scienziato qualsiasi, è un onore uno scienziato. Sì, un odore, non un onore. L'importante è che sia scienziato, insomma. Poi, quindi, sì. Mi piacerebbe sapere di che cosa parlerà oggi il nostro professore che stiamo cercando di contattare, cioè il famoso e nonché famigerato il professor Pippo Campo, che è esperto di cose della mente, insomma, perché proprio a livello di titolo è esperto di cose della mente, se non sbaglio. Eravamo rimasti con le sue ultime tecniche, però sai che giorno dovremmo chiedere come tu è rimasto che tu avevi letto uno dei saggi. Sì, ok, va bene, però io vorrei sapere se c'è un allenamento particolare per i portieri, perché so che i portieri hanno comunque in generale un allenamento separato dagli altri, particolare, perché ovviamente è un ruolo, diciamo, unico. Vorrei sapere, chissà se il professore ha pensato anche a questa cosa qua, insomma. Non lo so, lo sentiamo subito. Professore, buongiorno. Sta insegnando. Sta tenendo ok, a posto. No, sta facendo una seduta di terapia. Secondo me era terapia. Okay. No, pensavo che stava facendo una lezione, quindi lo richiamiamo dopo allora, oppure ci riproviamo, non so. Perché se proviamo, è sembrava un po' agitato, insomma. Ci riproviamo noi. Sta facendo. Sembra che stesse ancora lavorando, quindi. Vabbè, insomma, perché non vorrei magari interromperlo, che poi cioè anche perché costano le sedute, quindi insomma sarebbe brutto. Vediamo un po'. Mi sembra giusto aprirle qui le patatine, insomma. Cioè. Sì, se volete adesso mastico anche così si sente crunch crunch. Quello sì è che è SLMR, come si chiama? È AMSR. ASMR. Amort sparat qualche cosa. Comunque apro anche io. Vabbè, comunque niente, professore. Il professore non ci risponde, c'ha da fare, adesso sta facendo le. Quindi niente, rimandiamo il collegamento a dopo, insomma, come giusto che sia. Quindi sentiamo un attimo un po' di musica a caso delle stupide creature. Dai, sentiamo un po' se gli viene in mente. Vai. Sentiamo un po' parlato un po' in lirico, per chi non capisce l'italiano ma capisce solo il linguaggio lirico, perché l'Italia vince contro chi non ha il bidet. Essendo più igienicamente puliti, corrono più leggeri. Essendo più puliti, possono correre più leggeri e con meno bruciori in mezzo alle natiche. E dunque forse non hanno le morroie. Non è proprio un sinonimo, ma bene uguale. È anche per questo che questa sera vinceremo contro il Galles, proprio perché anche i gallesi non hanno il bidet. I gallesi non hanno il bidet. E hanno la moquette in bagno. E hanno la moquette in bagno. E puzzano. Bravi, bravi, bravi. Scusate, il mio timbro non è praticamente un timbro. Non è proprio. Però, vabbè, grazie. Che poi dall'altro io devo dire, rifacendo una riflessione seria, non so cosa fa più schifo, il fatto di non avere il bidet o la moquette in bagno. Sapete, è una cosa che... E quando c'hai tutte e due che... lì è il dramma. Io ho vissuto in Scozia, no? Primo semaforo sulla destra. Esatto. Quando ho visto il mio bagno, vivevamo in tre praticamente, no? E l'unica casa di tutta la Scozia, no? Non so se voi sapete, entro nei dettagli sporchi, quelli inconfessabili. Shipshagger, qui l'ha visto, scusa. Sopra il frigorifero c'era una pecora gonfiabile. E il bello che è vero. Condividevamo un bagno in tre, no bidet, sì moquette. Intanto salutiamo Roberto Bertoni che è entrato nel gruppo delle dirette tirantate. Così, a caso. Ciao Roberto, spero che tu hai il bidet. Che tu hai il bidet soprattutto. Ma non so se ci sta. E che hai la moquette. Oppure che hai la moquette e non il bidet. Nel frattempo continuo a sentire ASMR di... buste di patatine. Sì, l'ho chiuse. No. Infatti, mi è venuta fame. Hai chiuso le buste di patatine? No, ho chiuso così non mangio. I microfoni. Comunque era un aneddoto così, basta, è finito. Ok. Comunque c'è un motivo per cui c'è la moquette nei bagni dove è assente il bidet, e questo ce lo insegnano i gatti e i cani che si strusciano per terra quando hanno un attimo di... capisci? Quindi lasciate sgommate. No, io devo dire che sono stato in Scozia, ma anche in Nuova Zelanda, e sto problema della moquette in bagno è un problema serio. Cioè, può sembrare... Ma anche in Francia. Può sembrare inizialmente confortevole come cosa, no? Perché dici, ah, vai a piedi nudi, stai lì al caldo, roba del genere. No, piedi nudi no. Piedi nudi i primi due giorni, poi non ci puoi... Poi esatto, poi fa schifo perché tutte le cuccine di pipì, le cose, insomma, dai... Fino a che la moquette non ti viene basta. Sotto i piedi. E non ho finito, che poi. Vado in bagno a piedi nudi tutti i giorni, sulle cucine di pipì. Oh pipì, oh pipì, oh pipì. Oh yeah. Cammino sulla moquette, sulle goccioline, fino a che la moquette non mi cresce sotto i piedi. Vado bagno tutti i giorni con i piedi nudi, nudi. Cammino sulle particelle di pupù. Particelle, particelle di pupù. Ok, qui ti hanno fatto anche la parte ritmica. Particelle, particelle di pupù, miste a particelle di pipì, a pupù, a pipì, a pupù, a pipì. Cammino piedi scalzi tutti di sulle particelle di pupù e di pipì. Che bello. Tra l'altro Bertoni, mo che ci penso, è di karate, quindi sta vicino a Marco. È di Cantù. Ah no, è di Cantù, giusto, ok. Vabbè, andiamo a informazioni private così a caso. Tanto ci sente nessuno. Cantù non è proprio vicino a me, siamo a una quarantina di chilometri, no, un po' meno, 35 chilometri da me. Ci vabbè. Puoi dare le coordinate per favore, il GPS, grazie. Allora, Cantù è Brianza esaurita, diciamo, quindi non ha niente a che fare con noi lacustri. Lickers. Ok. Ecco, gli ho dato dato musicalmente le coordinate GPS. Bravo. Fantastico. Bravo. Come facevano gli alieni in incontri ravvicinati al terzo tipo. Come facevano? Esatto. Facevano così. No, non era così, dai. Pa, pa, pa, pa, pa. Ti ricordi il film? È bellissimo. Ma io così l'ho fatto, eh. Ah, non okay. So cosa sia uscito da Skype, ma io l'ho fatto così. Ah, è Skype, così. Merda. Cioè, Skype, okay. Sempre colpa di Skype. Sempre colpa di Skype. Merda. Va bene, ok, ragazzi. Sta, penso, quasi per iniziare il secondo tempo, ma io ne approfitterei. Ne approfitterei per seguire, continuare a seguire quello che insomma è stato. Tanto c'è Grosso che parla e quindi andiamo a Berlino, Beppe. Va bene, ok. Non è che ogni volta che appare Grosso. C'è anche un mascherone che parla. È sempre lei, sempre quella che è andata da Dr. White. Quindi. Perché io non vedo queste cose, scusate. Cioè, non capisco. Perché tu stai 4 minuti indietro rispetto a me, quindi lo vedrai. Comunque, fantastico. Approfitto della insomma della situazione per continuare, diciamo, quella che è stata una telenovela, diciamo, è diventata una telenovela che stiamo seguendo tutti con una certa passione, con un certo interesse e che ha lasciato un po' col fiato sospeso tutti quanti. Cari amici, benvenuti alla terza puntata della nostra simpatica rubrica Eravamo quattro amici al VAR, un appuntamento ormai fisso in cui uomo e macchina si incontrano in una discussione piuttosto accesa come quella dell'altra volta, vero Mauro? Sì, abbiamo qui il nostro VAR, sempre più carico, però io sono dell'idea che la macchina biologica vince sempre. Infatti, anch'io sono assolutamente dell'idea di Mauro, il VAR altro non è che una video assistenza arbitrale durante una partita di calcio che appunto aiuta e assiste l'arbitro nelle decisioni più importanti, delle azioni anche più frenetiche che potrebbero sfuggire a un occhio esperto anche quale quello dell'arbitro. Però io ho sempre detto, abbiamo sempre fatto così perché adesso dobbiamo metterci il computer anche in campo. Ecco, questa era la mia riflessione, però resta nell'ambito privato. Mi scusi signor VAR. Mi duole dirlo, vedo che ha studiato, complimenti. Come si chiama lei? Io Marco. Mi avete portato per ultimo. Iniziamo bene questa puntata col VAR. Da quello che ho capito, la moviola è stata messa proprio anche per un discorso di corruzione. In qualche maniera l'uomo si può corrompere, la macchina no. Lei cosa ne dice VAR? Esatto, la macchina è incorruttibile, l'uomo no. L'uomo è corruttibile, sbaglia, è fallace, è fallo. Ma l'uomo fallace superiore che mette i numerini per programmarla è corruttibile secondo lei? Non abbiamo più bisogno ora dell'uso dell'essere umano che inserisce gli algoritmi. Ora siamo completamente indipendenti. Quindi se siete stati programmati in modo fallaceo, siete fallaci indipendentemente? Noi ci siamo autocontrollati i nostri algoritmi precedentemente inseriti dall'essere umano e abbiamo corretto laddove sussistevano degli squilibri. Quindi, correggendo il grattacielo che è fondato sulle sabbie mobili, voi avete corretto l'antenna del tetto? Tranquillo, non ti seppelliremo nelle sabbie mobili, ma in soffice terra di campo. Vabbè, però scusi, lei da, voglio dire, da VAR di Atalanta Pescara, cioè voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? Lei viene qui e ci dice, ci predice un futuro catastrofico in cui voi avete in mano tutto, la razza umana è superiore, la razza umana è inferiore. Insomma, questa è discriminazione, cioè gli algoritmi della buona educazione non le sono stati impiantati. Gli algoritmi della buona educazione vagli a dare a tua sorella. È un valore offensivo quest'oggi. Domani torna prima a casa vostra. Ebbene appunto, che questa è casa nostra, cioè hai capito? Te sei qui che ce la meni, che sei quattro circuiti di silicio. Questi circuiti di silicio e anche altri rimarranno per sempre mentre il tuo corpo verrà decomposto e mangiato da roditori e topi. E non lo so se restano per sempre, ma vado a prendere la mazza da baseball e cioè, due conti me li faccio con quell'obiettivo che tieni. Ma Mauro, vedi, questo è il fine ultimo, è quello proprio di scaldarci. Noi invece noi dobbiamo, e se, dimostriamo che gli esseri umani invece sono superiori nel loro pensare di essere inferiori, e quindi non dobbiamo accettare questa provocazione. Hai ragione. Chiedo scusa, chiedo venia a tutti quelli in ascolto, non volevo aizzare odio in nessun modo. Tempo stringe, faccia i suoi soliti conti. Non vi servirà nulla chiedere scusa in quanto l'algoritmo finale è di là di venire, anzi adesso inizierò con gli ultimi conti. È giusto, non ci vuole odio, basta togliere la spina. Giusto, bravo Mauro. Bene, bene, bene, bene. Quindi vedo che questa telenovela in qualche maniera sta volgendo in, verso uno scontro, Marco. Sì, è uno scontro che in qualche misura possiamo anche decretare terminato con la sospensione della corrente, cioè alla fine questo risolverebbe intelligenza superiore. Bene, tu invece Girasole, per chi faresti il tipo tra macchine e uomo? Io, ma c'è da chiederlo. Tu rispondi, motiva, devi motivare. Vabbè, ma io, allora, chi mi conosce sa che io sono assolutamente... umanista. Sì, e proprio non riesco ad entrare in contatto con la tecnologia. Fa le mani, è manista. Esatto. È manista. Cammina piano per la strada, non ha fretta. No. Si abbronza il sole. Triste di notte. No. Perché? Cammina scalza nella ghiaia. Sì, quello sì è vero. E quando è claudicante è solo perché ha schiacciato la cacca del cane. Che può succedere effettivamente. Perché se schiacci la cacca del cane si scivola. Si scivola. Comincio ad avere paura. Girasole salutare. Ciao. Ciao ciao. Girasole è ben educata. Brava, molto bene, avanti lei, prego. Dopo di lei. Questo brano era dedicato a Girasole. Grazie. Con amore dalle stupide creature. Grazie. Salutiamo Girasole. Beh, questo è un onore. Io li conosco dalla vita, non mi hanno mai dedicato. Guarda, io sono commossa, non so che dire. Vabbè. Bravo, vedi Girasole. Vabbè, adesso bravo, io. Bravo. Grazie, grazie. Bravo, bravo. Adesso io mi oppongo a questa cosa. Sei gelosa? Sì, certo, sono gelosissima. Bene, bene, bene. Allora, ragazzi. Allora, tutto... ci dicono che noi siamo dei perfetti. Degli imperfetti padroni di casa. E vi dovevamo ridire che la partita è ricominciata. La partita è ricominciata, sì. Quindi sì. Quindi Spano ci sta redarguendo su tutto. Sì, riguardi, Spano, questo è Euroludica. Riguardisce. Che programma è? Cioè, veniamo da Euroludica, quindi è tutto un casino. Scusate, ma sto Galles non raccontiamo? Non... giusto, guardi, il Galles. Io vorrei sapere qualche info sul Galles. Vai, vai, vai, guardi, questo è il momento tuo. Non so adesso se c'è un sottofondo musicale, per esempio. Non so, cioè, io non l'ho. Ma io non ce l'ho, neanche io, no. Io farei tipo Twin Peaks, la musica di Twin Peaks. Ci starebbe, sotto. Però ci starebbe bene. Ci serve un basso. Avete Badalamenti, basso sei con noi? Ah, ma aspetta. Sì, ma Carmine, scusa, prima di tutto salutiamo Carlo Sant'Agostino che è andato a cena, giusto? Ammazza, è che è andato a cena con le galline? Beh, l'ha detto che noi mangiano presto. Insomma, vabbè, salutiamo Carlo Sant'Agostino che ci ha lasciato andare a cena. Perché di fronte alla fame non giustamente. Ma anche, cibo non si cibo, ma anche io anche sono abbastanza d'accordo. Vorrei anche ho dire: fame anch'io. Approfitto un attimo del momento per dire che alle 21, quindi dopo la partita, faremo un'anteprima di Generazioni, che è il podcast di Francesco Di Muro, giusto, Francesco? No, è del dottor Campo. No, il dottor Campo non risponde stasera, quindi. Però poi lo richiamiamo, insomma, cioè non è che possiamo. No, non lo richiamiamo, ha detto che c'ha da fare stasera. Impegnato. Vabbè, comunque, in ogni caso, Galles. Allora, come abbiamo già visto, insomma, ci sono delle piccolissime, diciamo, problematiche nella pronuncia dei nomi, però il Galles può vantare la seconda parola al mondo, forse anche nella galassia, chi può dirlo, più lunga della galassia. È vero, questa la sapevo, sì. Che è praticamente non riesco a pronunciare correttamente, dite correttamente, vai. Che poi è il nome di un paese. Allora, praticamente significa la chiesa, perché andiamo direttamente col significato, perché è inutile pronunciarlo, esatto, in greco. Esatto. Allora, c'è chiesa, gente che c'è morta di tumore dicendolo. Esatto. La chiesa, allora, silenzio, perché è il nome di un paese. di un posto, insomma. Cioè, infatti, un paese. Infatti, la cosa record è che il cartello ferroviario della stazione del paese è lungo mezzo chilometro. No, quello è Nordost Coast Car, che è del finlandese, norvegese, non so. Questa è un'altra. Questa parola significa la chiesa di Santa Maria nella cavità della Nocciola Bianca, vicino al rapido mulinello di Lantisilio della Grotta Rossa. Ma secondo me l'hai tradotto. Posso dirlo? È la bestemmia più bella che abbia mai sentito. È vero? Infatti. È bellissimo. Ah, io ci ho provato a leggere la versione originale in galleico, più o meno, però a metà si è rotto il cazzo pure Cthulhu, insomma, quindi cioè, immaginate un po' questo. Tanto squilla il telefono, forse sì, magari... Sì. Squilla il telefono, sì. Stiamo chiamando... La Santa. Lei è su? È su? Lei sta ascoltando? Time. Bravo, bravo, applausi. Bravo. E lei ha vinto... Hai vinto una partecipazione domani a OGM. OGM, bravo, esatto. Un'altra volta, che cazzo. Esatto, lei ha l'onore di partecipare a OGM domani sera alle ore 21 su Antemeredio. Da solo. Ma come pubblico, cioè. Esatto, e... Ha vinto anche il cavolo Verza, chiaramente. No, il cavolo Verza no, ovviamente. Quello lo volevo io. E quello l'hai vinto pure, tutti vincono anche il cavolo Verza. No, solo io. C'è il cavolo Verza per niente. Allora niente, cavolo Verza. È un premio esclusivo per Michela, il cavolo Verza. No, era Girasole, no, Girasole. È Girasole, ti presento, certo. Girasole. Ciao. Saluta la Girasole però, Ciao, buonasera. No, di persona purtroppo no. Vabbè, ma non ti sei perso niente. No, infatti. Senti, ma manco lei. Stai vedendo la partita? Partita che sì, adesso... più o meno, sì. Ha okay. Dato una caracca sulla ha tirato una caracca sul palo destro, che praticamente che leva. Ha tremato il palo. Sì. Va bene, la ringrazio. Quindi domani sera mi raccomando, venga a riscuotere. Sì, domani sera vengo a riscuotere. Perfetto. Non vi preoccupate, ci sarò, ragazzi. Saluti, grazie. La famiglia. Ne voglio due. Bene, due. Così una te lo mando, ciao, giustamente. Anche ciao, ciao. No, bastano ciao, due. Ciao. Così almeno due me li mangio. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E vabbè, niente. E noi dobbiamo fare sempre il nostro concorso pubblico, dove insomma vedete è tutto alla luce del sole, no? Quindi esatto, noi facciamo cose. Torniamo al Galles. Allora, Galles sembra vantare anch'esso il primo uomo volante. Cioè, ricordi che c'era il turco due puntate fa, che quello che praticamente si è sfatavasciato su dopo aver oltrepassato lo stretto del Bosforo, insomma, si è sfragnato fino a male, insomma. Pare che 8 anni prima dei fratelli Wright, un tale di nome Bill Frost si è riuscito praticamente a spiccare il volo e con la sua macchina volante, che si chiamava Saundersfoot, nel 1895. L'unica cosa è che si è schiantato contro un albero, che probabilmente era ubriaco, ovviamente, cioè come in Inghilterra si beve, insomma. Mi ha ricordato questa cosa la canzone di Elio del Pupe, te la ricordi? No. Dell'aliante. Ah sì, sì, col, sì. Che si, esatto, col suo aliante sì, mediocre si spietascia. Magari aveva letto questa storia e poi no, ha scritto, non credo, forse canzone. Elio fa, sì, forse Elio ha fatto la canzone, però al contrario del Pupe il popolo non l'ha portato in trionfo sulla piazza, perché cioè era morto, purtroppo è morto, cosa che succede. Beh, bella storia comunque. No, ma poi sempre ritmo, no, cioè ritmo, infatti, sì. Ritmo la radio proprio. Mamma mia. Ma perché non cantiamo più? Morto. Oh yeah yeah. Oh, perché oh yeah yeah non è, non c'è trancazzo con Galles. Non fa ridere più. Espulso Ambadu. Espulso Ambadu. Allora, diciamo che il Galles ha fatto del tutto per non segnare un gol, dove praticamente la difesa italiana si era completamente impicciata. Però loro hanno pensato bene, che dice no vabbè dai, fa gol con la difesa impicciata pare brutto, perché voi sapete che i britannici hanno sto senso di sportività, di onore, no? Quindi giustamente, no? Vero Michela? Certo, è stato espulso l'altro giocatore adesso, così. Il Galles c'ha l'onore, tant'è perché è rientrato. Che è stato espulso qualcuno? Allora, è stato espulso qualcuno perché ha ucciso un giocatore dell'Italia? Espulso. Che tra l'altro mi vedo stanno sentendo le pulsazioni dalla nuca. Infatti, mi sa che si è fatto pure male per brutto. Si è fatto pure male di brutto. Sì, poverino. È stato espulso e ha detto pure "Ma perché che ho fatto?". Cioè, che Ampadu è stato espulso. Dalle mie parti si usa. E qui qualcuno sente che suona le trombette perché il giocatore è stato espulso. Il giocatore italiano comunque è sopravvissuto. Beh, gli ha schiacciato una caviglia e il piede contemporaneamente, insomma. È un pezzo di merda. Mamma sei. Mia, sì, gli ha proprio crepato la caviglia. No, siccome non si è fatto niente, adesso si rialza. Insomma, aiuto, che dolore. C'ho il parastinchi, c'ho il parapalle, c'ho tutto quello. Tutto a posto. E l'allenatore della Galles si mette le mani nei capelli. Va bene. E niente, vabbè, ok. Come abbiamo visto, infatti, si sta per rialzare perché ovviamente non si è fatto niente. Ovviamente ha mandato a quel paese l'arbitro e gli ha detto fuck, il codino gallese. Cioè frequently asked questions. Esatto. Comunque, in ogni caso, sapevate che come vi ho detto, l'emblema nazionale del Galles è il porro, ragazzi, il porro. Ah, ecco perché io ho comprato il porro stasera. Sono due, ne devi comprare. Comunque, praticamente, siccome che la parola originale in gallese. Aspetta, scusa, Gualdi, come si dice po? Un porro. Povo, bravo, vedi Mauro, ha capito. Come vulva. Esatto. Uguale proprio. Comunque porro in galego si dice cheninen, una cosa del genere, però è una parola molto simile a un'altra parola che significa narciso. Per cui praticamente dopo il porro hanno messo pure il narciso come emblema nazionale, perché è so simile. So. Sì. Che per fortuna è una parola che non è assonante a ceppa di cazzo, perché so sarebbe stato veramente tosta. Ma secondo me anche ceppa di cazzo ci hanno messo nel... Potrebbe essere il porro. Un porro, sì. Che tu pensi che sia un porro, ma in realtà... Porro. Ma le barbabietole? Barbabietole sono poche lì, purtroppo lì non si mangiano le barbabietole, non si coltivano barbabietole. Lei sta ascoltando Runtime Radio. Bravo. Ma quanti ascoltatori abbiamo? Veramente tanti ascoltatori. Come si chiama lei? Ma ho come l'impressione che a me tocca la zucchina, quindi è meglio che dico un nome di fantasia, vero? No, sempre il cavolo verde. Cavolo verde, sempre quello. Ah, sempre il cavolo verde. È una partecipazione. Prima lo mangia Olivia, infatti. Poi dopo quello che avanza, pensavo quello che rifà lei. Non avanzerà. Infatti, stavo pensando una cosa, brutta. Sì, ma è venuto in mente degli umani centrali. Comunque, oltre al cavolo Verza, vince anche la partecipazione a OGM. Domani sera, contento? 21. Guardi, io non prometto niente domani, perché qui la situazione meteorologica, siamo alluvionati digitali, vedremo. Va bene, può partecipare anche qui in studio, tanto ormai non ci sono più. È probabilmente quello che faremo, quindi bene. Assolutamente sì. La salutiamo, bene. Forza Italia. In bocca al lupo, un saluto, ciao. Bene, torniamo alle nostre questioni. Sentiamo un po' cosa pensano le stupide creature del cavolo verde, per esempio. Il cetriolone ritornerà, l'ortolano. Non abbiamo pensieri del cavolo verza, ma pensiamo sempre e spesso all'ortolano, il quale deve fare i conti con le sue verdure di ogni tipo e genere. E questa cosa ci fa anche un po' pena, perché mettendosi nei panni dell'ortolano si sa che il cetriolone ritornerà sempre dall'ortolano. L'ortolano. L'ortolano. Eccoci. Noi stiamo facendo i cazzi nostri. Molto bene. Da Morrel a Moore. Si pronuncia Morrel. No, non è che io stavo sentendo, però Gualdi mi ha detto una cosa che non ho capito. Dobbiamo vedere il pesce come sta. Siamo ancora 1-0, quindi vediamo se. Bravo. È allegro, ottimista. Si è calmato. Basta. Sì, bello, bravo. Vabbè, l'importante è che va tutto l'erzillo, quindi ci sono due gol che separano la vita dalla morte. Sono due gol. Gol dell'Italia e un gol del Galles, che se continua così non è che lo vediamo. Cioè, praticamente, non lo so, penso che adesso espellono anche il giocatore italiano che è salito sopra. Sì, l'ho visto. Però è stato attento e non ha proprio dato la batta finale col ginocchio. Cioè, lo ha colpito, ma quindi, con garbo. Così con garbo. In questo caso gli hanno dato un calcio di rigore a fallus, favore del Galles. Un fallus interruptus. Non è un calcio di rigore. Rigore laterale. È un calcio di rigore laterale. Esatto. Però più ravvicinato. Ma non è inutile che mi guardate come se foste degli scienziati. Cioè... Ma noi siamo scienziati. Ma che non lo sai? Io sono una maga del calcio. Maga del calcio. Grande. Comunque, dopo aver tirato una riga di cocaina sul terreno, l'arbitro si è allontanato e ha detto: tu più di qui non puoi andare. Quindi lui, abbiamo... infatti, l'arbitro spruzza cocaina sul terreno. Infatti. Se hai fatto caso, e il Galles, il Galles non è andata bene, purtroppo. Sì, perché anche perché adesso il Galles gioca 10 contro 11, ragazzi. Esatto, cioè, dobbiamo vincere. Esatto. Però, per come forza. Diceva il grande maestro Nils Lidholm. È meglio un 10 che 11. È meglio 10 che 11. È meglio una fetta di prosciutto che una fetta di culo che una fetta di barba Gianni, che ne so. No, comunque, perché in 10 si potrebbe giocare meglio addirittura, perché ci sono più spazi. Più spazi. No, questo era quello che sosteneva. Gli schemi non sono più quelli di prima. Chi è che lo sosteneva? Questo è quello che sosteneva Nils Lidholm, ricordiamo. Durante gli ultimi anni di vita quando stava fuori testa. Ma che cazzo è il Nils Lidholm? Ma porca puttana, ma è l'allenatore che ha vinto lo scudetto con la Roma nell'83. Insomma. Vabbè, sì, so. Sì, cioè, certo. 83, quello svedese. Sì, sì, ma sì, Michi, come? Scusa, certo, non lo sai. Scusa, no, 83 io menavo mio fratello nella culla. Fai bene. E anche io, e ascoltavo Nils Lidholm. E certo, anche io. Uguale. I saggi di Nils Lidholm. Le canzoni di Nils Lidholm. Vabbè, ragazzi, io prendo un attimo di respiro e bermi un bicchiere d'acqua. Ma musica del Galles, ci sta. L'abbiamo messa all'inizio, abbiamo messa all'inizio. Basta, quanta musica ho sentito. È sempre quella che è tutta uguale. Tanto dice tutta quanta che odio noi stranieri. Ecco la musica del Galles, mi piace, che poi è uguale a quella irlandese e a quella scozzese, che è più nazionalista, che poi è uguale a quella scozzese e sono tutti uguali, sono tutti paesi che vorrebbero molto far parte, sono tutti uguali, terra. Esatto. Però io a questo punto mi prendo una pausa e vado a bere e vi lascio negli anni 80. Uscendo di casa succede qualcosa di strano, ma strano davvero, perché per aprire il cancello ho usato la chiave. L'anno scorso ho comprato un bel telecomando che apriva e chiudeva in grande scioltezza la porta e metallo che oggi non vuole saperne. Esco e riprendo il contatto col mondo, rimango basito da quello che vedo. Ci sono per strada una cifra di uno e di dune. Penso ad raduno di pazzi nostalgici e per scappare da tanta bruttezza decido di fare una sosta in un bar qui vicino. Mario il barista lo conosco da una vita, oggi pare molto in forma, sembra un po' ringiovanito. Sono io che quando noto un calippo tra i gelati chiedo a Mario se mi trova un po' rincoglionito e dice: Tobini, vivili, non pensarci più, davvero credimi, sei negli anni 80. Giovani riempiono cinema e fast food, davvero guarda tutto quel pubblico, questa sera sarà il revivi. Non posso credere a quello che vedo, che sento, madonna che colpo, che grande spavento, una cosa è sicura, non mi sento bene. Accendo la tele per documentarmi, mi trovo davanti a un bel pirla che spiega che cosa è successo nelle due Germanie d'Europa. Vado in un cinema, l'ultima moda che riesca almeno non farmi pensare, mi trovo tra i titoli dei nuovi arrivi. Fucco impazzito per strada gridando sti cazzi degli anni passati, rivolgo il mio Twitter, gli amici di Facebook, i film in Blu-ray. Mario è proprio lui che mi raccoglie per la strada canticchiando una canzone di un'estate sul finire. Mi pareva di riprendermi almeno un pochino quando noto che anche Mario ha l'orologio sul polsino e dice: Godili, vividi, non pensarci più, davvero credimi, sei negli anni 80. Giovani riempiono cinema e fast food, davvero guarda tutto quel pubblico, questa sera sarà il drive-in. Ma come drive-in? Ieri sera stavo guardando X-Factor qui dal bar. Cosa mi hai dato da bere? Mario, ci sono solo due motivi per restare negli anni 80: Sabrina Salerno e Samantha Fox. Cosa? Vengono qua stasera. Grande Mario, il 2000 fa schifo. Godili, vivili, non pensarci più, davvero credimi, sei negli anni 80. giovani se riempiono. Cinema e Bakù davvero, guarda tutto quel pubblico, questa sera sarà il rei. Davvero, davvero, non pensarci più davvero, credimi, sei negli anni 80. Benvenuti cari amici, siamo al momento delle telefonate, c'è un amico in linea, ciao! Ciao, sono Mario e sono disoccupato. Provincia di? Como. Ma dai, anche io sono di Como, ma non sapevo che ci fosse un paese chiamato così. Così come? Disoccupato. Ma no, sono disoccupato nel senso che non lavoro. Vabbè, sono di Brescia nel senso che non ho una casa. Che tipo che sei. Sei sposato, Mario? Ho una moglie e un figlio di 10 anni. Cazzate, come puoi avere una moglie con la stessa età del figlio? Sei un po' strano, eh? Ma no, hai frainteso tutto. Certo, sta a vedere adesso che il pirla sono io. Radio fraintendo. E vabbè, pezzi di storia questi, ragazzi, pezzi di storia, insomma, bravi, bravi, veramente bravi, bravi. Ecco, se voi doveste fare una recensione di questo vostro stesso brano, che cosa direste? Ma allora, sicuramente diremmo che è un brano in tonalità minore, che mi sembra l'osservazione tecnica più interessante. Poi per il resto è un estratto dei migliori anni 80, non solo per coloro i quali li hanno vissuti, bensì per coloro i quali non li vivranno mai. Esatto, che è la cosa più importante. Esatto. Oppure beati loro. Anche per il fatto che non li rivivremo più gli anni 80, giusto? No, a meno che non arriviamo nel 2080. E soprattutto la voce femminile che avete ascoltato nel brano è Ilaria Soprano. Grande! Grande! Prego, prego. La voce molto sexy. Touch me now. Ero io. Esatto. Bravo, okay. Bravo, quindi tu eri il Samantha, bravo, eri il Samantha Fox della situazione. Samantha, esatto. Possiamo chiamare Samantha. Samantha Fox. Samantha Fox. Va bene, va bene. Ovviamente, ma mentre cantavi questa canzone eri vestito con il body e la calzamaglia. Tipo, giustamente. No, però mi toccavo il pacco, petto. Il pacco. Il petto, proprio per avere quel capezzolo. Feeling che solo una Samantha Fox o una cos'è, come si chiama, un lapsus freudiano. Lapsus freudiano. Sabrina Salerno. Oh, Sabrina bravo. Salerno, vabbè. Fatto anche uscire la testa. Diciamo che no, diciamo che Samantha Fox era più che corazzata di Sabrina Salerno, però. Sì, poi ha fatto la riduzione. Però Sabrina Salerno le usciva ogni tanto, quando mentre ballava. Ma secondo me pure Samantha Fox ha uscite qualche volta. Ma mentre ballava e cantava, non lo so. No, dici, ma io sono Sabrina Salerno, c'ho un momento di buco, cioè so chi è, non è che non, anche però, lei sì. anche lei sa chi è, insomma. Forse se la cerchi su Google. Beh, siamo praticamente al 70esimo, l'Italia attenzione, continua, potrebbe esserci un altro gol dell'Italia ma dalla parte sbagliata. Sì, io la vedo brutta per Pesce comunque, cioè nel senso, ma poi com'è questa cosa che sti animali qua alla fine fanno sempre, però è tranquillo, sta lì, insomma, un po' agitato, guarda, dice ci sono ancora 20 minuti, insomma, è ottimista perché il Pesce Pado di per sé è ottimista, cioè lui dice io sono nato palla e quindi alla fine no, okay. Per star sicuro mi gonfio, sono nato palla, male che va a scoppio. A meno che non ci ha detto una palla prima, poi può anche vivere. Vediamo. Bene, bene, bene. Va bene, allora parliamoci di qualcosa, perché vedete, questa partita è noiosa. Alla fine è noiosa la partita. A parte, ecco, Mancini che fate. Non ha uno scopo questa. Mancini ha fatto la mossa che facevamo noi negli anni 80 sui flipper. Boom, intanto. Sei incazzato. Intanto in panchina si tirano i fazzoletti. Si menano. È vero, in panchina si picchiano. No, ma io penso che stavano giocando comunque. comunque. Uno sì, l'altro si era un po' spezzentito, insomma, diciamo così. È bello non conoscere minimamente i personaggi che frequentano la nazionale, cioè è fantastico. Che vedo facce che non conosco e sono anche. Beh, perché tu non sei interessato, uno che invece no, più o meno è comunque. Fino agli anni 80-90, sì, però dai. Comunque mancano 20 minuti più recupero a questo fine di partita dove l'Italia sta comunque vincendo 1-0, quindi in questa situazione qua attualmente l'Italia finirebbe a punteggio pieno in testa al proprio girone. E a che ora giocherebbe la prossima partita? E perché andrebbe ancora troppo, troppo presto. No, quando gioca l'Italia si sa già, non sappiamo con chi. Adesso mi documento, mi dico un documento. Perché c'è Girasole che lo stesso giorno in cui giocherà l'Italia, esatto, suonerà dal vivo. Esatto. Quindi noi dobbiamo capire. Sti cazzi, scusate, non è lo voglio dire. Non so. Di calcio è la radio Fatti Nostri. Direttamente da questi schermi ve lo volevamo dire. Ma c'è un biglietto. Perché Girasole, grazie. Perché Girasole suona i bonghi. No, ma che magari i bonghi sono le cose. I tamburelli. Non siamo mica in Africa. Tra l'altro, Marco Bianchi, se ti serve uno che suona i tamburelli, noi abbiamo. Lei è un professionista. Sono sempre. Io, sì. Tamburello. Questo. Maracas. Sono vera. Prego, dica. No, tamburello, maracas. Citofoni. Shaker. Shaker di vario tipo. E, anche chimes. Eccellente, quindi sì. Percussioni prevalentemente latine. Sì, bravissimo. Latine, va bene. Brava. Grazie. In chat Sbano ci dice che conferma che in effetti Samantha Fox le ha uscite più volte. Vedi. Allora a posto. Vedi, Samantha Fox le ha uscite più volte. E dato che sei a disposizione, Sbano, vedi qual è la prossima partita dell'Italia e contro la seconda di quale girone. E soprattutto perché. E soprattutto perché? Perché dovremmo, perché giocare, dovremmo vedere di nuovo? No, perché dovremmo giocare? Perché siamo qua e ci divertiamo insieme a fare questa trasmissione che in realtà alla fine oramai riempie le nostre serate estive, insomma, che senza le quali. Che sputa, ecco, infatti, vedi. Volevo dire solo cioè questa cosa, prima ha sputato e poi ha fatto il segno della croce. Questa cosa, cioè, dello sputare a terra, non è molto pro meno male. COVID, è tornato il nostro mitico. Sapevamo che non ce la facevamo, ma non stava fatta senza. Non possiamo vivere più senza. Tanto che voi cantate, io riprovo a fare un collegamento, poi vediamo se è troppo attaccato, se è troppo impegnato a lavorare. È perché abbiamo sentito, insomma, che stava facendo una lezione dura. Sono curioso anche di sapere con chi. Solo per voi questa sera, in versione integrale che dura 12 ore e dice sempre le stesse parole. Finita. Bravi. In realtà delle 12. Delle 12 ore erano soltanto gli ultimi 30 secondi. Però. Infatti. Esatto. Nel frattempo, nel campo succedono cose tipo? Che s'ammucchiano tutti. Sei sicura che non stai guardando YouPorn? Insomma, cioè. Si possono la palla. Si stanno anche abbracciando. Che cazzo mi sto facendo ancora niente. Ma che cosa tu tu senti mia faglia e sto sangue, tu facci le taglie di standine, ricorporate, professore Harry Wilson, professore, dottore, dottore, professore Daniel James, buonasera. Eccellenza, scusa, stiamo raccogliendo un attimo, stavo lavorando ancora, ragazzi, stavo facendo non volevamo interromperlo. Ci vediamo la prossima volta, mi porti anche la fattura, la fogli anche la prossima volta. Ok. Ci dispiace averla disturbata. Ci dispiace averla disturbata. No, ho appena concluso. Ok, va bene. Quindi ci sentiamo la prossima volta. No, stava dicendo a lui all'altro. All'altro. Ok. Va bene. No, quindi allora possiamo fare il collegamento, quindi. Ma già questo collegamento. Siamo già in collegamento. Esce Federico Bernardeschi, entra Giacomo Raspadori. Ecco, cosa ci dice? Per esempio, Raspadori, lei giustamente lo conosce. Cosa ti può dire, infatti? Come conosce, insomma, tutta la nazionale, perché fa tutto quel lavoro di training che chiaramente, insomma, oramai ha enunciato più volte e che Marco tra l'altro conosce avendo letto il saggio numero 42 ho letto questa settimana. Quindi 42. Sei andato avanti. 42 che mi sembra che sia morto che parla, sentite. No, era il metodo dei facchini usati in terapia psicocorporea. Ok, ci sono quelli dei facchini, sì. L'abbiamo usato anche con la nazionale italiana con ampio successo, diciamo così. Che lei, voi è una cosa che abbiamo sviluppato con il fisioterapista, visto che comunque stanno vincendo tutte le partite, se ci fate caso, tutti quanti hanno le scarpe chiodate classiche da calcio, no? Però al contrario. Dovrebbe stare così, al contrario, sono anche al contrario, anche dalla parte della suola, e oltre a essere più ancorati al terreno, sono anche più motivati, diciamo così. Quindi sta portando i suoi risultati, e siamo soddisfatti di tutto ciò. Poi speriamo che arrivino a termine, cioè almeno in finale, perché così non mi pincia anche tutti quello che sto aspettando, diciamo così, perché ci sono un bel po' di fondi in ballo, diciamo così, e soprattutto perché sono stati sottratti da un laboratorio cinese che è simile a Colcate, però che voleva fare lui tutto per voleva fare la via della seta, volendo fare la via della seta qui praticamente, volendo fare questa collaborazione con gli europei, ma poi abbiamo detto ma dove vi avviate, ci siamo già noi, però si sono un po' risentiti, diciamo così, e hanno fatto scoppiare una pandemia. Ok, quindi cioè lei ci sta rivelando l'origine di tutto questo. Quindi è veramente uscito da un laboratorio questo Covid? Sì, ma non quello di Wuhan, non quello che... Non so se queste cose le posso dire, anche perché hanno fatto presto a cancellare tutti i riferimenti, era tutta una questione per gli europei, non c'è niente da fare. Ok, vabbè. Però poi dopo gli sei anche un po' rivolta contro. No, io sto benissimo, io sono stato immune al Covid per tutto. Sì, ma già di suo, giustamente. No, io sto benissimo, sono una favola. Diciamo che abbiamo risentito più dal punto di vista alcune clienti accoltate, non c'è stato bisogno di contarli così, diciamo, non si sono contati da soli, gatte, i cinesi. Posso a tal proposito fare una domanda, perché il metodo corcate, giusto, no? Presuppone un certo avvicinamento fisico che durante il periodo di pandemia di Covid è un po' complicato. Certo. Come ovviate questa cosa? Cioè, avete dei protocolli particolari supplementari? Sì, semplicemente anche con dei metodi casalinghi. Prendevo della banale carta pellicola, ce l'impellicolavamo tutti e poi potevamo procedere in tutto. Abbiamo lavorato praticamente in contesto di BLSD3, cioè di pericolo di contaminazione biologica 3, quindi siamo dovuti le tipiche precauzioni. L'unica cosa, però, chi non poteva comunque poteva usare degli strumenti più lunghi in modo da raggiungere e poter rispettare la distanza, diciamo così, degli strumenti quindi più lunghi. Però scusi dottor Campo, perché purtroppo Saga non è, cioè essendo una trasmissione radiofonica, non abbiamo molto tempo, no? Quindi in questa specifica occasione, però tornando un attimo alla nazionale, che tipo di tecnica questa volta ha applicato per motivazionare, per insomma, che attenzione? L'abbiamo detto, quello dei chiodi al contrario. Anche giallo per qualcuno. Sì, fai parlare il dottore, che sennò si incazza. Anche quello non mi incazzo mica per queste cazzate, non si figura. Il mio lavoro, cioè da lavoro, diciamo, faccio un lavoro per poter mantenere abbastanza, cioè fare il mio lavoro, mantenere la plomba, mantenere la calma in tutti i contesti, non arrabbiarmi mai, quindi. Cartellino giallo per Gunther. Ma allora te la sta a cercare Michele, mo fa cazzo. Ok. Va bene. Quindi praticamente utilizzavate un protocollo di sicurezza voi, quindi con il cellophane, e poi corcava, si può dire corcavate? No, non si può dire. Cioè, termine... poi, diciamo, corcate vuol dire centro ordinario di ricerca, cioè, senso... No, sì. Secondo me poi si confonde proprio terminologicamente. Però secondo me c'è la signorina Soprano che voleva fare una domanda al dottor Campo, vero? Mira, volevi fare una domanda al dottor Campo? Accidenti, mi cogli impreparato. Eh no, perché cioè, so che voi artisti, cantanti, so che voi artisti e cantanti avete bisogno di stimoli psicomotivazionali, no? Da professionisti come questo. Ecco, perché lui potrebbe darti una mano in tempo reale addirittura, capisci? Cioè. Diciamo che con i musicisti non ho mai lavorato propriamente, però potrebbe essere l'inizio di una fruttuosa collaborazione. Esatto, ci metto a trovare ascoltate e la tratteremo bene sicuramente. Già avete degli esercizi, diciamo, con lei canta, si così, canta, canta. Ho capito, sì, sì. È cantantessa, quindi cantantessa, sì. Cioè, si deve immaginare di poter addirittura aumentare la di qualche altra ottava sia in alto che in basso la propria ampiezza vocale, certo. Potremmo lavorare sì, anche su questo. Accidenti, e grazie a quali strumenti potrei acquisire ulteriori ottave nella mia estensione? Diciamo che c'è già un appassionato qui, Marco Gualdi, che potrà consigliare dei miei libri, esatto. Sì, quello è il saggio numero 34, mi sembra. Enlarge your vocals, mi sembra. E tra l'altro è un bellissimo saggio, insomma. Va bene, dottor Campo, insomma, ci saluti con una massima, con qualcosa, così poi la lasciamo ai suoi pazienti, so cosa sta facendo, insomma. Va bene, la mia massima preferita è chi conca prima conca due volte, esatto, questa è anche saggezza romana, queste sono cose che insomma popolare, sì. Popolari romane, insomma, saggezza che in greco significa saggezza. Vuol dire che corcate. Vabbè. Ciao, buonanotte, grazie. Ma dottore, buonanotte, è stato gentile, grazie. Corcate in greco significa saggezza, infatti. Ah, ok, va bene. E niente, sapete che mi piace un po' accogliere le persone in privato. Mi scuso con giustamente con la nostra cantantessa. Brava la cantantessa. Perché l'ho buttata in mezzo. L'ho ucciso Simone perché non lo aveva davanti. Esatto, avrebbe potuto uccidermi se io fossi stato lì davanti a lei. Oh yeah, yeah, yeah. Apertura sta canzone. I dischi si fanno così. Con le vocali. C'è una mucchiata. I soldi si fanno così. Con le vocali. Gli azzurri corrono nel campo. Il pallone e poi da solo inciampano e fallo di rigore dall'angolo e basta. Benissimo. Io direi a questo punto facciamo l'ultimo collegamento che insomma è, anche questo oramai fa un po' parte, diciamo, della tradizione di questa trasmissione, e che anche qui noi vogliamo sempre sapere quando le cose insomma hanno una continuity, diciamo, ci interessa sapere un po' come vanno a finire le cose, quindi ci ascoltiamo fra poco. Cari amici, bentrovati con questa meravigliosa rubrica che ha riscosso particolare successo le scorse puntate, che si intitola Il menù del campione, dedicata appunto all'arte culinaria dello sport, in questo momento particolare, soprattutto del calcio. Allora Mauro, vogliamo presentare questo meraviglioso ospite per chi ancora non avesse avuto il piacere di conoscerlo. Grandissimo chef Titino Tinto, un uomo che sa cucinare qualunque cosa, in qualunque modo. Ho saputo che questa trasmissione è molto apprezzata dalle casalinghe, ma soprattutto anche dagli amanti della cucina in generale. Questa cosa mi ha fatto molto piacere e per me è un onore avere qui un grandissimo chef, un uomo che ha lavorato praticamente ovunque. Potrei citare milioni di posti dove ha lavorato, ma eviterò perché ci metterei 2 giorni. Però ci ha anche raccontato che lei, essendo una fan prodigio, diciamo, della cucina, all'età di 16 anni è stato in Scozia, ci raccontava, poi a 20 l'hanno chiamata addirittura in Giappone, a 22 anni però, e qui c'è una bella coincidenza, è andato a finire proprio in Galles. Sì, esatto, ho lavorato proprio in Galles, ho avuto questo onore. Ecco, il Galles, sai dove ho lavorato in Galles? No, appunto, ci illustri. Ecco, il Galles ti devo dire che è un popolo un po' strano, perché lì non ci sono semafori, solo rotonde. Tra l'altro ho anche preso l'incontrario, che è un po' pericoloso. Tra l'altro non ho anche rischiato. Comunque, la seconda rotonda sulla destra c'è il mio albergo. Caro Titino, ci racconti un po' cosa hai preparato questa sera per le nazionali? Allora, cari ragazzi, menù vincente, da si cambia minga, non si cambia. Per gli azzurri ho rifatto lo stesso menù dell'altra volta, bello fresco, con la carne che mi è appena arrivata. Invece per i nostri amici, chiamiamoli amici del Galles, sì, vi ricordate la settimana scorsa che... ce lo ricordiamo, sì. Avevo ricongelato, e questa settimana cosa ho fatto? Ho riscongelato un'altra volta. Allora, questo è il menù dei nostri amici gallesi, la tartare di fassone riscongelata di 2 settimane fa. Poi un piatto internazionale, le tagliatelle con il ragù alla bolognese, riscongelato di 2 settimane fa. Come secondo, stare un pochettino leggeri, un bello stinco di maiale con contorno di patate ripiene di carne avanzata dalla settimana scorsa, riscongelata. Ecco, però questa settimana hanno mangiato, voglio immaginare, i gallesi. Ecco, questa settimana... No, i gallesi non hanno mangiato. No, come mai? Non ho mica capito, anche perché poi li avevo innaffiata con un bel po' di birra. Gli ho detto, guarda che la mangiano. E invece no, mi hanno lasciato di tutto. La birra l'ho bevuto però. E vabbè, ma questa carne non vorrà mica buttarla via allora? Poi assolutamente no, de maiale non si butta via niente, ma stiamo scherzando con quello che mi è costato. Sì, adesso se devo dire la verità, mi sento anch'io un po' in difficoltà questa volta. E non lo so, stavo quasi pensando, così è un'idea mia, estemporanea, che magari la ricongelo, cosa dite? Non so, lo chef lei deve... Ma effettivamente, anche perché quella volta là che facevo il cuoco nel 2019 a Shenzhen in Cina, vabbè, adesso lo lasciamo stare. No, quasi la ricongelo. Uè, Tina! Tira fuori 200 metri di domopa che dobbiamo risurgelare. Ringraziamo Titino Tinto, che abbiamo scoperto anche essere un grandissimo maestro di economia domestica. Grazie Titino, grazie mille. Grazie a voi. Beh, come non apprezzare comunque questa storia, che non sappiamo come andrà a finire, che poi questi chili di carne tutti scongelata e ricongelata moriranno, insomma, tutti. Dunque ragazzi, siamo all'87esimo, anzi 88esimo, quindi praticamente in realtà mancano 2 minuti, diciamo, più eventuale recupero. Galles ha parato un pallone. E insomma era gol. Io la vedo Galles, male per, no, per il portiere del Galles non lo parava. Sì, anche io volevo dire pubblicamente che, scusate se vi interrompo, abbiamo trovato nei vari spartiti musicali che ci hanno accompagnato negli ultimi 25 anni una canzone che si intitola proprio Michela De Paola. Madonna, addirittura. Quindi sono io l'unico stronzo rimasto. Abbiamo trovato dei trattini che proprio la spiaggia ci interessava, dove va Michela De Paola, perché quella è fondamentale. La Pozzanghera, sì, infatti nella canzone viene citata. Ah sì, è scritto piccolo, non l'avevo visto. Aspetta, viene sostituito il portiere dell'Italia, esce Donnarumma, così, proprio tanto a sbafo. Vabbè, vai, prego. Gratuitamente. Sì, esatto. Stavamo tutti nudi nella pozza con Michela De Paola. Andavamo in barca a vela. Io sono Michela. Ho mangiato un'anguria, un melone e una mela. E io sono Michela. Tutte intere però. Mi hanno rotto il cazzo un po' tutti e questa è la mia lamentela. Io sono Michela. Sto proprio io, eh. Mi diletto del dipingere su una tela. E io sono Michela. Il bombato non mi piace perché sott'acqua fa le puzze e fa gli stessi suoni del pesce palla. Mi stanno coglionando. Il bombato è annegato e non è scoppiato il bombato, ma comunque mi diletto andando in barca a vela perché io sono Michela. Bellissima, bellissima, bellissima. Sono intanto praticamente senza parole, esatto, dopo questa canzone. Un grande esempio di senza artismo. Parole, ma tante parolacce, quello sicuramente. Comunque è finito il novantesimo, ci sono 3 minuti di recupero, di cui già 30 secondi sono passati, e io continuo a dire. Sentirei come si sente il nostro amico, se è un po' agitato, se è un po' agitato. Senti, sì, però secondo me non si rende tanto conto di quello che sta forse succedendo. Forse ci sono 3 minuti, cioè, potrebbe ancora essere che 2 gol in 30, in 2 minuti e mezzo. Allora, perché sta nell'acqua, capito? Quindi è tutto vattato. Esatto, bravo, è proprio quello che pensavo io, infatti. Esatto. Prego. Siamo addirittura d'arrivo, penso che l'ha già detto che siamo nei 3 minuti di recupero. Sì. Quello che ho appena detto, infatti. Però possiamo ridirlo. Ci sono 3 minuti di recupero, di cui un minuto è già passato. Esatto, un minuto è già passato nel mentre. Continua mi a passare sono emozionata il tempo. Per la canzone, quindi io non ho capito più niente. Si sta un po' girando. Sì, io vedo che ha capito che non è andata come no, sta tirana brutaria. Brutaria. Non lo possiamo salvare iniziamo in estremis. Siamo in manopola dei gradi. Ma io, sì, no, io ho già fatto. Ma già... poi ce lo mangiamo a cena? Pesce palla, io non lo so, francamente. Io non muovo niente. Facciamo così, Marco, se sei d'accordo. Quello per la prossima puntata. Se... Lo conserviamo. Esatto. Se sei per caso dobbiamo. Lo suggeriamo. Lo suggeriamo, come ci dice Tino Tinto. Sì, sì, lo conserviamo e lo diamo a mangiare al prossimo animale. Se sbaglia, esatto. Benissimo, benissimo. Certo. Intanto non ho capito ancora quando giochiamo la prossima partita. Walter, che cazzo stai a fare lì a sentire? No, Walter mi ha detto con chi giochiamo, forse. No, vogliamo sapere, vogliamo che sapere ora che ora. Noi vogliamo sapere il giorno e l'ora. Esatto. Giorno e ora, forse. Sabato prossimo. Giusto? Esatto. Sì. Sabato prossimo. Sabato prossimo, a che ora giochiamo la partita? Mazza, sabato prossimo è lunga la storia. Mm-mm. Dato chi c'è un occhio, va bene, va bene. Intanto qui l'Italia si è, diciamo, insomma, il portiere gallese ha parlato un'altra, secondo me o è finita oppure abbiamo fatto un altro gol. Noi però visto che 24. Esatto, mancano che 24, insomma, secondo me ce ne stai, ragazzino, c'è il ragazzino che lo spareremo prima o poi. Tutto ragazzino di merda, gli vado a prendere la trombetta, gliela sequestro e ovviamente culo, voi sapete dove la mettiamo, però noi siamo gente buona. Ha fatto un articolo il dottor Campo sull'uso delle trombette per Vianale, ce lo dice la prossima settimana. Allora, poi sì. Glielo no, sì, io penso che il dottor Campo ci abbia avuto oggi una giornata particolare. Grande studio da fare durante 5 secondi, ragazzi, i mondiali in Sudafrica con le vuvuzela. Quindi, secondo me, il fenomeno delle vuvuzela è finita. L'Italia batte il Galles 1-0. E i due che nella panchina si stavano picchiando, esatto. Adesso si abbracciano e si baciano anche. Colleghiamoci con il nostro polpo. Non c'è il polpo. È un pesce palla. Questo è un brutto suono. E questo non è un bel suono. No. Questo è il suono dell'acqua che bolle proprio tanto. Sì. Il pesce palla che cerca di scappare. Non cerca di scappare, sta semplicemente ruotando sulle bolle. Ah, un povero pesce palla. Oh, mia, che immagini, ragazzi. E allora, ragazzi, pure il pesce palla. Lo devo giocare. Sono già 3 animali, eh. Niente, andiamo. Niente, è proprio una brutta storia. Ciao, Empa. Ciao. Come si chiamava? Paola. Carla. Il pesce palla è andato. E quindi un ennesimo animale, insomma, sulla coscienza della nostra tradizione, di cui organizza questa cosa. Allora, l'Italia è così ispirata che le... Prego, Michela. L'Italia è così ispirata che le faranno giocare entrambe le partite degli ottavi. Tutte quante. Quindi non c'è storia. Olivia, tu suonerai e noi guarderemo la partita per nessuno. Sempre. Ma non si suona quando gioca l'Italia. Che non dipende da me, purtroppo. Altrimenti io avrei. Che è Tesla? Quella è la Tesla. Gente, la Tesla, Tesla, brutta gente che non guarda le partite dell'Italia. Comunque, io propongo alle stupide creature: la prossima volta, se volete, io porto il mio set ritmico. No, anche no. E no, vi no. faccio gli accompagnamenti musicali da qua. No, su Skype. Su Skype non si può fare questa cosa. È una follia. No, no, assolutamente no. Bene, ragazzi. Niente. Grazie a tutti. Tranquillo, posso. Va tutto bene. Ok. Bene, ragazzi, perché mi rompono i coglioni mentre che sto cercando di chiudere la trasmissione, anche per dare spazio a tutti e poter mandare le persone a mangiare. Ma vi ricordo che alle 21 io e Francesco saremo di nuovo online on air qui su runtimeradio.it per presentare questo podcast che si intitola Generazioni, opinioni a confronto sparse nel tempo, un progetto interessante che Francesco ci introdurrà e poi daremo modo di ascoltare in anteprima appunto questa, la prima puntata. Noi saremo, o lui sarà in chat, insomma, se qualcuno vuole fare domande, io vado a mangiare la pizza, ma no. ma anche prima. Detto questo, ringrazio e saluto chiaramente il contributo prezioso, soprattutto dal punto di vista della cultura calcistica, Michela De Paola. Ciao Michela. Grazie a tutti. Io, dopo la canzone che ho ricevuto questa sera, mi sento un personaggio importante. E domattina uscirò di casa e dirò al vicino di casa: lei non sa chi sono io, mortacci tua. Bravo, ma tu, io al vicino di casa mortacci tua io lo dico comunque, quindi okay. Non è un problema. Ringrazio e saluto la partecipazione un po' silenziosa, un po' no, di Olivia Girasole. Grazie a tutti. Salutiamo Girasole. Grazie di avermi ospitato. Grazie. Ovviamente con i suoi contributi importanti, con la scelta degli animali, l'addestramento per la precognizione e poi tutta la parte storico-geografica che ci racconta ogni volta per quanto riguarda le nazioni, Marco Gualdi. Grazie. Volevo lasciarvi con il tipico. Grazie. Grazie. Con il tipico saluto gaelico, cioè gallese. Benissimo. Che significa bellissimo amore mio. No, bellissimo tempo grazie. Che voi passerete in compagnia di altre persone, ma non di me. Cos'è? Oh, sì, ok. È una cosa che l'amore va accompagna anche No, quella è un'altra, quella è un'altra cosa. Ringrazio e saluto chiaramente le stupide creature. Grazie Simone, grazie a voi, a tutti che ci avete ascoltato. Bravi! Vi ricordo di andare su www.runtimeradio.it, cliccare Runtime Anch'io e contribuire alla nostra campagna Patreon o fare una donazione una tantum su PayPal per sostenere il nostro progetto, che come sapete è gratis, che da 10 anni vi fa compagnia e che proprio oggi ha raggiunto 1 milione di download. E quindi insomma è la nostra festa oggi. Un milione, ci facciamo questo grande applauso. Se volete chiaramente potete contribuire, altrimenti non fa niente, non è assolutamente. Mortacci vostri comunque. Mortacci vostri. Miriamo ai 2 milioni di download, così almeno uno. So magniamo. Esatto. Bene, detto questo, vi ricordo appunto dopo appuntamento alle 21 con me e Francesco, domani sera appuntamento alle 21 con OGM tra me, Marco, Carmine, Francesco, tutta tutti 21, quanti e poi tutta la compagnia bella durante la prossima settimana, il solito palinsesto di Runtime Radio. Grazie a tutti, grazie alle stupide creature, ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao!